Gli anni 60 sono ricordati come l'epoca del benessere, ma a metà del decennio la guerra fredda tiene tutto il mondo sotto il ricatto dell'incubo nucleare. Stati Uniti e Unione Sovietica si fronteggiano nella gara spaziale e nella corsa agli armamenti, sotto il pungolo dell'industria militare cresciuta a dismisura durante la Seconda Guerra Mondiale. Il confronto è motivato dalla necessità di espandere il controllo dei mercati, ma c'è una fortissima componente ideologica. È in gioco il modello stesso di società, la scelta tra capitalismo liberale o di Stato, tra democrazia borghese e socialismo reale. In questo scenario, la maggior parte degli stati nati dalla dissoluzione degli imperi coloniali confluisce nei movimenti dei paesi non allineati, guidato da Nasser e Sukarno, che cerca di mantenersi neutrale tra i due blocchi. In realtà paesi come India, Egitto, Iraq scelgono di legarsi all'Unione Sovietica con accordi commerciali e militari. Specularmente gli Stati Uniti sono alleati della Persia dello Shah, dell'Arabia Saudita, del Pakistan. In Medio Oriente l'Ovest è schierato con Israele, l'Est sostiene i paesi arabi e la resistenza palestinese. Ok, ma questa è la versione che non l'avevo visto. Adesso vedi un attimo se c'è qualche osservazione da fare. Puntualizza. Sì. La guerra di Algeria termina nel 62 con la sconfitta dei francesi e nei paesi ancora sotto dominio coloniale proseguono le lotte di liberazione nazionale. Dopo la vittoria della rivoluzione cubana del 59, in diversi paesi del Sud America sono in corso guerriglie contro governi reazionari e dittature. Gli Stati Uniti rispondono ispirando colpi di Stato e istruendo i militari latinoamericani nella controguerriglia e nella tortura. In Asia la Cina maoista ha preso le distanze dall'Unione Sovietica, la Corea è divisa in due, il Vietnam, dopo aver sconfitto i francesi e Dien Bien Phu, è ugualmente diviso tra il nord socialista e il sud filo occidentale. In Spagna, nel 68, inizia l'opposizione armata al governo franchista da parte dell'ETA basca, che unisce irredentismo e socialismo. Anche l'irlandese IRA orienta al socialismo il suo confronto con i britannici. Due guerre civili a bassa intensità e di lunga durata, con un forte appoggio popolare. Nell'agosto del 64 l'incidente del Golfo del Tonchino fornisce agli Stati Uniti il pretesto per attaccare il Vietnam del Nord, iniziando un'escalation che porterà nelle giungle asiatiche fino a mezzo milione di giovani statunitensi. Negli USA l'opposizione alla guerra nasce subito e si salda al momento per i diritti civili degli afroamericani. Il sostegno alla resistenza del Vietnam sarà il più rilevante elemento unificante del 1968. C'è come... Sì. Ok. A metà anni 60 i giovani sono in movimento in tutto l'Occidente industrializzato, ma la situazione italiana è del tutto particolare e porta a una radicalizzazione nettamente più diffusa e di lunga durata. Politicamente sono gli anni dell'ingresso al governo dei socialisti, con ritorni episodici del monocolore DC o sue alleanze con repubblicani, liberali e socialdemocratici e persino con i neofascisti del Movimento Sociale Italiano. Il PC è il più grande partito comunista dell'Occidente, alleato dei sovietici, ma in progressivo allontanamento dopo la scelta di Togliatti di mettere da parte la rivoluzione e perseguire la via elettorale al potere. Nonostante questa scelta, gran parte della base comunista crede ancora nella rivoluzione proletaria. Il Comitato Centrale però isola i dirigenti favorevoli, a partire da Secchia, ancora al comando della struttura militare del partito. Non tutte le armi dei partigiani infatti sono state riconsegnate, Sono ancora tenuti in funzione depositi con coperte, vestiti, cibo, ciclostile e tutto il necessario per reggere un confronto armato, mentre gli americani hanno da tempo costituito delle strutture segrete in alcuni paesi europei per intervenire in caso di una vittoria elettorale delle sinistre e per prevenirla con metodi non convenzionali. Di fatto, in quegli anni, alti gradi dell'esercito, politici, industriali, sono coinvolti in piani eversivi, in combutta con uomini dei servizi segreti e con la CIA. Nel 1964 fallisce il tentativo di colpo di Stato militare del generale De Lorenzo, con complicità che arrivano al presidente Segni. In Parlamento ci sono anche i monarchici, di scarso rilievo elettorale, e il Movimento Sociale Italiano, erede diretto del fascismo e collegato a circoli universitari e gruppi paramilitari. Fuori del Parlamento, a sinistra del Partito Comunista, nuove sigle si aggiungono a gruppi già esistenti, di varia ispirazione, marxista-leninista, trotskista, maoista, circoli anarchici. C'è poi tutto l'apparato più il poliziesco dello Stato, la repressione di manifestazioni e scioperi dura, con morti e feriti come a Reggio Emilia, ma sempre più spesso i manifestanti reagiscono resistendo alle cariche e contrattaccando, come già avvenuto a Genova nel 1960 e a Torino nel 1962. Fin dagli anni 50 l'Italia entra pieno nella società consumista, l'economia è dominata dall'industria e milioni di operai si affollano nelle fabbriche delle città del nord. Arrivano dalle campagne dove l'agricoltura si è meccanizzata e ha espulso la manodopera in eccesso. Sono giovani nati dopo la fine della guerra, scolarizzati, la prima generazione cresciuta con la televisione. Sono curiosi, impazienti, pieni di aspettative. È stato promesso un mondo migliore e loro vogliono esserne parte. Si rivedono nei ricordi dei padri e desiderano una propria avventura. È fortissimo ancora il ricordo della resistenza, e all'opposto è ancora viva la nostalgia fascista. Molti frequentano le parrocchie, dove si sta diffondendo il messaggio di impegno sociale del Concilio. Cominciano ad allungarsi i capelli e si accorciano le gonne, segnali concreti dell'insufficienza per i formalismi borghesi. La liberazione sessuale avanza e si scontra con il maschilismo tradizionale, rompendo l'equilibrio nei rapporti tra i sessi. Anche la lingua, anche la musica sta cambiando, i filoni tradizionali si incrociano e si fondono con nuovi sound e testi sempre più impegnati. Un elemento decisivo nell'evoluzione degli eventi è la scolarizzazione di massa, funzionale allo sviluppo economico. La riforma ha aperto le porte dell'istruzione fino all'università, con una crescita esponenziale della popolazione scolastica. Il cambiamento di composizione sociale è drastico. Scuole superiori e università, finora monopolio delle classi alte, si riempono di figli del proletariato e della piccola borghesia. Ma intanto il boom economico è in via di esaurimento, la tensione sociale cresce e la protesta inizia a sfuggire di mano a partiti e sindacati. Nella seconda metà degli anni 60, la protesta dilaga in molti paesi, contro la guerra del Vietnam, contro il nozionismo scolastico, contro regole e tabù ormai inattuali, contro la repressione poliziesca, contro lo sfruttamento del lavoro. Nel 1967 in Italia iniziano occupazioni in alcune università. Tra gli studenti nascono gruppi di studio e collettivi e tra gli operai cominciano a svilupparsi comitati di base. Due realtà separate destinate a confluire presto nella lotta comune. La comunicazione del movimento usa mezzi economici ed efficaci. Volantini, scritte, giornali murali, manifesti, riviste di periodicità incerta, canzoni di lotta. Poi ci sono i libri, testi teorici, biografie di rivoluzionari, manuali di guerriglia. In Cina è in corso la rivoluzione culturale e il libretto rosso di Mao si diffonde rapidamente. Il movimento è ampio e articolato, con obiettivi molteplici, ma è molto attiva la componente rivoluzionaria che arriva alla lotta armata in alcuni paesi, anche in alcuni paesi occidentali. Könnt ihr vielleicht zwischen den Texten scrollt nicht ein bisschen langsamer? Genau. Nee, okay, ich ja. Auch sehe, welche Bilder das eingeblendet werden. Also genau zwischendrin steht doch immer noch dieses Bild kommt jetzt und so. Und das, ja. Ich fand das interessant. Okay. Stimolato anche dal colpo di Stato militare in Grecia in aprile, già nel 1967 si apre all'interno del movimento il dibattito sulla necessità della lotta armata per la rivoluzione. Nell'ottobre del 67 muore in Bolivia Ernesto Che Guevara, che diventa subito un mito capace di unire le mille anime del movimento che esploderà in tutta la sua creatività nel 68. Il mito del Che si diffonde rapidamente, anche grazie a un'operazione di propaganda su scala globale realizzata da Gian Giacomo Feltrinelli. Allora, io qui farei uno stop, perché questa era la parte introduttiva. Quindi questa era la parte introduttiva del documentario, che vuole fornire in estrema sintesi un quadro della situazione politica, sociale e economica dell'epoca. Das ist die Einleitung des Dokumentarfilms, die eigentlich eine Übersicht über die soziale und politische Situation der Zeit geben will. La parte più difficile è comunicare la passione, l'entusiasmo, la totale dedizione di migliaia e migliaia di militanti, di migliaia di giovani che si sono dati completamente alla lotta rivoluzionaria. Penso che no, si fa. Das Schwierigste zu vermitteln ist die Leidenschaft und die Leidenschaft, mit der sich Tausende von Leuten dieser Idee widmeten und der Revolution widmeten. Allora, tornando prima, il contesto degli anni 60 quindi facilita sotto vari aspetti l'emersione di una ondata rivoluzionaria, e Feltrinelli rappresenta una variabile anomala, ma compatibile, altamente compatibile con i tempi. Der Kontext der 60er Jahre fördert eigentlich auf eine Art, fördert oder ja, fördert das Aufkommen einer revolutionären Bewegung. Und Feltrinelli war zwar eine nicht ganz anomala, eine atypische Figur, aber doch eine. Infatti Gian Giacomo nasce nel 1926 in una delle più ricche famiglie d'Europa. Quando nel palco. E ha appena 10 anni quando muore il padre. Erede di un impero economico internazionale, cresce confinato nelle ville di famiglia, affidato a precettori e servitù. Divoratore di libri di avventura, nasconde dietro la timidezza un carattere passionale e romantico. Ancora bambino, è un giardiniere comunista a fargli nascere il desiderio di rivoluzione. Appena maggiorenne si arruola nel nuovo esercito italiano, ma ormai il 25 aprile è vicino e gli lascia il rimpianto di non essere arrivato a tempo per il combattimento. Si iscrive al PC, si stabilisce a Milano, svolge attività da militante di base, con tutte le difficoltà di un giovane dell'alta borghesia di farsi accettare come semplice compagno tra i proletari. Compiuti i 21 anni deve decidere, è tentato di rinunciare all'enorme eredità, ma alla fine accetta anche su indicazione del partito, interessato a finanziamenti e progetti utili alla causa. Sposa Bianca Delle Nogare, militante comunista, una relazione mal vista dalla madre, che organizza perfino un falso arresto per impedirla. Gian Giacomo fugge in Spagna e poi a Lisbona. Subisce invece un vero arresto per attacchi in aggio e uno per favoreggiamento della Banda delle Cinque Vie, formazione illegale di ex partigiani. Nel 49 è messo dal partito a dirigere la cooperativa Colip, che edita libri a costo popolare. Cadute le restrizioni fasciste, la narrativa straniera inonda la scena italiana grazie alle collane economiche. Siamo in piena guerra fredda, la colonizzazione culturale statunitense si impone con il cinema e la musica, e ogni ambito della cultura è un terreno di scontro. Nel 1950 Feltrinelli fonda l'Istituto per la Storia del Movimento Operaio, in seguito trasformato in fondazione, e comincia a viaggiare lungo e largo per l'Europa in cerca di libri e manoscritti. Inizia così a costruire una rete di contatti internazionali, tra gli altri Hobsbawm, Bert Andreas del Soccorso Rosso, Theo Pincus, editori per i progressisti e militanti rivoluzionari in Germania, Francia, Gran Bretagna. Nel 1955 lascia la Colip per fondare una propria casa editrice. 2 anni più tardi apre le due prime librerie, a Pisa e Milano. Si separa da Bianca e, ottenuto dalla Sacra Rota l'annullamento del matrimonio, sposa Alessandra De Stefanis, ma l'unione durerà su un solo anno. Nel 1956, a seguito dell'intervento sovietico in Ungheria, aderisce a un documento che chiede ai dirigenti del partito di prendere posizione. La rottura definitiva con il PC è però dovuta alla pubblicazione del Dottor Zivago, alla fine del 1957, decisa da Feltrinelli aggirando la censura sovietica. Il romanzo è subito un successo internazionale, ma è anche occasione per un pesante attacco della propaganda anticomunista. Non rinnoverà più la tessera, ma resta comunque in contatto con alcuni esponenti del partito, in particolare con Pietro Secchia, comandante dell'apparato militare del PC. Nel luglio del 1958 Feltrinelli è in viaggio da solo verso la Scandinavia, con la tenda e le bozze del Gattopardo, che sarà presto pubblicato. Ad Amburgo fa tappa dall'editore Rowohlt e lì conosce Inge Schoenthal, una giovane fotografa già famosa, ben introdotta nell'ambiente culturale internazionale. Il libro esce a dicembre ed è un successo mondiale che consolida l'immagine della casa editrice. Il nuovo anno si apre con la vittoria della rivoluzione cubana. In primavera sposa Inge in Messico, insieme visitano gli Stati Uniti, dove conoscono editori impegnati come Rosset e Wolf, e fanno un veloce passaggio anche a Cuba da semplici turisti, senza però prendere contatti con la dirigenza rivoluzionaria. È un periodo di viaggi continui in tutta Europa, spesso con Inge, per gestire le relazioni della casa editrice e della fondazione. Educato come erede di un impero economico, Gian Giacomo è abituato fin da bambino a viaggiare e parla diverse lingue. Sono relazioni di lavoro, ma quasi sempre con una comunità di interessi politici e ideali. È una rete internazionale dal potenziale ancora tutto da esplorare. È un periodo gratificante. Compra e restaura il castello di Villa Deati, compra anche un veliero, lo chiama Eschimosa, il nomignolo di Inge. Tra il 1959 e il 64 aprono le librerie di Genova e Firenze, due a Roma, la seconda a Milano. In estate con l'Eschimosa percorre il Mediterraneo e arriva fino in Scandinavia. Ospita alcuni rifugiati politici e pubblica sui giornali un appello a favore della resistenza algerina. Viaggia in Nigeria e in Ghana ed è ad Accra per la prima conferenza sul disarmo nucleare. Nel 1962 nasce il suo unico figlio Carlo. nell'ottobre del 62, la crisi dei missili a Cuba porta il mondo a un passo dalla guerra. Il 28 agosto 1963, a Washington, una folla immensa partecipa con Martin Luther King a una manifestazione per i diritti civili degli afroamericani. In Italia si svolgono i primi scioperi a Gatto Selvaggio alla Fiat e a settembre a Palermo nasce il gruppo 63, cenacolo di giovani intellettuali della transavanguardia, della neoavanguardia, pardon. Eco, Balestrini, Sanguinetti, Barilli, Arbasino, Bonito Oliva, Del Buono, Guglielmi. Feltrinelli finanzia i loro incontri ed edita 15 la loro rivista. Nel febbraio del 64 arriva con Inghi a Cuba per incontrare Fidel Castro. Vuole un suo libro di memorie e tornerà spesso negli anni successivi. Del libro al fine non se ne farà nulla, ma a Cuba ha l'occasione di conoscere dirigenti rivoluzionari di tutto il mondo ed in particolare i latinoamericani. Forse conosce anche Che Guevara, ma non ci sono riscontri oggettivi. In quel periodo comunque il CE è già in rotta con Castro e viaggia spesso all'estero. Sono quindi molto poche le occasioni in cui l'incontro avrebbe potuto avvenire. Il CE tocca a New York, Parigi, Praga, diversi paesi africani. In Cina incontra Chou En-lai, fa scuola anche a Roma. Il 24 febbraio del 65 tiene ad Algeri un duro discorso in cui accusa l'URSS di imperialismo, segnando la rottura con la linea politica di Castro. Ci sono poche informazioni sulle mosse di Feltrinelli tra 65 e 66. Probabilmente sarà stata a Cuba ed è stata in mare con l'Eschimosa. Intanto matura e si compie la crisi con Inghe e i due si separano. Una separazione dolorosa soprattutto perché comporta un allontanamento dal figlio. Feltrinelli non parla mai della sua separazione e nemmeno Inghe ne farà mai cenno. Anche le biografie tacciono sulle motivazioni. Di sicuro Gian Giacomo ne esce profondamente cambiato e deciso a votarsi totalmente alla rivoluzione. Nel gennaio del 66 a New York visita la Factory di Andy Warhol, dove viene anche filmato per un progetto dell'artista. È molto interessato alle tematiche del movimento beat e conosce ad una festa Sibilla Melega. Le librerie Feltrinelli si riempiono di minigonne e manifesti in stile optico. A Roma c'è anche il jukebox e i ragazzi del vicinato arrivano per ballare. In estate il concerto di Mal alla libreria di Firenze blocca il traffico per ore. In novembre, sempre a Firenze, l'inondazione. Da tutta Europa arrivano gli angeli del fango, arriva anche lui con la macchina piena di cibi medicinali. È evidente che ancora non ha trovato quello che sta cercando e sonda gli ambienti più attivi. A dicembre scrive anche un articolo per Mondo Beat e finanzia l'uscita della rivista, ma il fatto provoca una spaccatura e la scissione della redazione. Intanto il CE arriva alla Paz, Bolivia, per la sua ultima avventura. Io qui farei una cesura, farei proprio un break per sentire intanto se ci sono degli interventi, delle cose che possono, delle reazioni. Hier gibt es jetzt Platz für Reaktionen von eurer Seite. Ho letto molto velocemente e quindi anche una parte abbastanza ampia di testo per avere più tempo per parlare noi. Ich habe ziemlich schnell diese lange Textpassage gelesen, um mehr Zeit zu haben, um zu diskutieren, untereinander zu diskutieren. Ich habe eine kurze Frage. Ich verstehe noch nicht genau, was die Idee ist von den nächsten Stunden. L'idea delle prossime ore, cos'è l'intenzione o l'obiettivo delle prossime ore? In realtà stiamo ancora aspettando di capire. Tu hai avuto più notizie, Raffa, di. A posto, quindi eccoti. Ero preso la lettura. Benissimo, introduciamo il discorso di Cecco, l'intervento di Cecco e l'intervento di Swiss su parti che riguardano Feltrinelli, appunto, e Salicina anche. Also wir warteten eigentlich noch und wir leiten jetzt die Beiträge von Ceco und von Suisse ein über Salicina und über Feltrinelli. Aber vorher waren wir noch ein bisschen, wir wussten nicht, dass er schon hier war. E speriamo che si colleghi Oreste Scalzone, che non risponde alle mie comunicazioni. Und eigentlich sollte noch eine Verbindung, also Videoverbindung mit Oreste Scalzone sein, der aber nicht auf die Nachrichten antwortet. Ganz kurz was Technisches. Vielleicht gibt es Leute, die nicht gerne gefilmt werden möchten. Also ich zähle mich dazu. Können wir vielleicht eine Ecke einrichten für die Leute, die nicht im Video sein No, non dürfen? Simone, Nicht die lui ha proprio geduckt detto che werden. non vuole essere filmato. Vielleicht ist es einfacher, damit es auch Okay, für mich fürs fantastic. Filmteam einfacher ist. Vielleicht können die Leute, die das lieber ist, können vielleicht irgendwo hier drüben sitzen und dann wissen, dann ist es nicht so kompliziert für sie, dann müssen sie sich A nicht mehr. livello tecnico pensava che magari si potesse fare un angolo dove possono mettersi le persone che non vogliono essere filmate, così dopo tu sei più libero di. Sì, ma se no non lo filmo anche stando lì, cioè, come vuole, se vuole anche stare lì non c'è problema. Also, ich könnte auch, sonst wer nicht gefilmt werden will, kann es sagen und er wird es respektieren. Wer kann sich merken, wer das ist. Ja, klar. Das jetzt, Non so se ci sono if you altre want persone. to Gibt es film, andere it's di. easier. It's easier It's for you, easier because it's. so maybe it's easier for you, so you can take shots wherever you Yes, want. Okay. but I don't want to derange you, so if you want to Oh, then no, Okay. it's part of the concept of film, It's so okay. everything is fine, yes? Thanks. Bene, io proseguo allora. C'è qualche domanda? E se c'erano Gibt es domande? sonst noch? Lui che non vuole essere filmato. Andiamo, sì. Da qui. Siamo già Sì. Anna. Gibt es jetzt die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, was wir gelesen oder was wir gehört haben? Ist das die Idee? Ja, Okay. wenn, also. Also ich habe etwas, einfach eine Rückmeldung, ist aber noch nicht sehr inhaltlich. Einfach was mir aufgefallen ist, ich fand manchmal wurden Personen erwähnt oder Wörter benutzt, die man vielleicht auch noch hätte kurz erklären können. Je nachdem, an wen sich der Film dann richtet, Irredentismus zum Beispiel. Weiß ich, wusste ich jetzt gar nicht, was es ist, und vielleicht geht es aber auch so, dass man, das war jetzt ein Eindruck von mir, dass man vielleicht ein paar Wörter oder Personen vielleicht noch erklären könnte. Und das Zweite ist auch wieder noch nicht sehr inhaltlich, aber einfach technisch, wird so oft einfach die männliche Form genutzt, zum Beispiel in Afroamerikaner. Vielleicht, das wäre noch etwas, was ich noch schön fände, das zu ändern, wenn es diese Möglichkeit auch gibt. Allora, più a livello concettuale che contenutistico, diceva che molti concetti e molte persone sono state nominate senza essere Spiegato chi spiegate, erano. sì, esatto, che magari dipende da un po' dal gruppo target a cui è rivolto il film, in È alcuni casi chiaro, andrebbe è spiegato chiaro. meglio, e anche il fatto che venga sempre usata la forma maschile e non maschile femminile nel In testo che che senso? Quando si parla per di esempio sì, operai, esatto. Vabbè, negli quindi. operai magari è anche una questione storica, c'è cioè anche una realtà storica che sì, però sì, in Sì, questo no, sì. sì, ho capito, Magari sarebbe è bello che molto, molto usare. chiaro la critica, ne tengo conto. L'intero corso. Ich bin okay. Mi sono un virtus per i psichiche. Di entrambe le osservazioni, perché sì, si può migliorare, per esempio quando nomino Nasser e Sukarno posso aggiungere Nasser presidente dell'Egitto e Sukarno presidente dell'Indonesia. Sì, io penso che intendesse una contestualizzazione un po' più ampia. Credo. La questione è quanto tempo deve durare il documentario? Sì. Non è facile concentrare questi contenuti in breve tempo e quindi c'è una necessità di sintesi che necessariamente taglia fuori persone. Però se una persona è interessata ad un personaggio può fare delle ricerche, cioè cerca una serie su Google. Also zu den Ausführungen ist die Schwierigkeit ein bisschen die Länge, wie lange wird der Dokumentarfilm, wie konzentriert man das? Ich glaube, die Frage ist die Frage nach dem Zielpublikum. Ich habe den Eindruck, es ist ein Film jetzt im Moment für Insider, die eigentlich alles schon wissen. Das ist nicht für eine Generation von 20-Jährigen. Das ist mein Eindruck. Un po', lui dice che la questione è un po' del gruppo target, che praticamente ha l'impressione che questo sia un film destinato a chi conosce già la questione e non a un pubblico di ventenni che non conosce per niente. Sì. Da una parte è vero, è vero anche che un ventenne oggi non ti regge 20 minuti di approfondimento, ma non bastano 20 minuti, poi ritorniamo al punto di prima. C'è una necessità di sintesi che comunque non è banale. Non è banale. L'unica soluzione sarebbe una serie. Einerseits ist er einverstanden, andererseits findet er, dass es ist schwierig, einen 20-Jährigen zu finden, der 20 Minuten Vertiefung toleriert. Und das Problem ist auch, dass der Kompaktheit oder der Kürzung. Und eine Lösung wäre eine Serie. Con una serie di documentari chiaramente c'è più possibilità di approfondire, quindi riducendo la selezione. Come linguaggio da utilizzare con i giovani, quello che non ho fatto, che invece avevo pensato di fare, era di intervallare i vari blocchi di testo con musica significativa del momento. Prego. Also mit der Serie könnte man besser vertiefen, aber das ist noch das Argument von vorher. Etwas um die Jugendsprache, der Jugendsprache näher zu kommen oder dem jugendlichen Zielpublikum näher zu kommen ist, und was er jetzt nicht gemacht hat, ist die einzelnen, also die Textblöcke mit Musik also zu alternieren. Du wolltest noch etwas sagen? Genau. Ja, also meine Rückmeldung wäre, für mich war es extrem viel Information. Ich habe selber mal einen kurzen Propagandafilm gemacht und habe genau dasselbe versucht, so in einer Einleitung einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Und das ist extrem schwierig und im Nachhinein denke ich auch, es ist nicht so gut herausgekommen. Ich hätte deshalb so meine Frage vielleicht, ob er schon mal überlegt hat, das aus einer persönlichen Gesicht herauszuschreiben. Mhm. Allora, c'è moltissima informazione ed era quasi un po' troppo per lei, perché anche lei ha già fatto in un documentario, ha avuto un po' lo stesso problema di fare un'introduzione con tutte le informazioni, non era molto felice del risultato, si chiedeva se tu non avessi mai pensato a scrivere il film dalla tua prospettiva personale, da riscrivere tutta la storia dal tuo punto di vista, per avere un altro approccio. Un altro approccio potrebbe esserci quello della fiction, in realtà, quindi un docufilm, una docufiction. Ma quello di scrivere tutto dalla tua esperienza, cioè da come tu hai scoperto la storia, non lo so. Ah, in questo senso, però comunque il contesto storico va delineato, il problema che veniva evidenziato, che è reale, è che la conoscenza della storia tra i giovani è terribilmente indietro, è quasi nulla. Non credo che sia un problema di insegnamento, ma la storia non viene studiata, viene vista male dai giovani. Dalla maggioranza, quindi non interessa. Un sacco di giovani davanti. Parlo della realtà italiana, non so se è la stessa realtà anche altrove, però manca la curiosità del passato. E invece la storia è avventura, è tutta avventura la storia, dall'inizio alla fine, in qualsiasi modo la racconti. Ok. Però aspetta, adesso devo sintetizzare. Sì. Er möchte die Geschichte schon kontextualisieren und einen anderen Zugang wäre die Fiction, ma la Fiction non ti interessa. No, è un discorso molto più complesso. Aber das ist ein viel komplexeren Ansatz. Und das Problem ist die Geschichte. Die von Pierre aus gesehen zu wenig, also dass die Jugendlichen zu wenig Interesse haben und zu wenig Kenntnis haben der Geschichte in Italien und vielleicht auch in der Schweiz. Va bene. Allora, qui c'è un passaggio cruciale all'inizio del 67, nella primavera del 67, andando per ordine, il 20 aprile 1967 il giornalista Régis Debré, che già scrive per la casa editrice, viene arrestato dalla polizia boliviana. Il giorno seguente in Grecia i colonnelli prendono il potere con un colpo di Stato. Il golpe greco fa nascere in Feltrinelli il timore che si tenti il colpo anche in Italia, dove sa esistere più di una rete di cospiratori con la complicità americana. Nei giorni successivi è a Cuba e conosce il fotografo Alberto Corda, che ha realizzato numerosi scatti del Che. Tra le tante, l'istinto guida l'editore a scegliere la foto che, opportunamente tagliata, sarà poi conosciuta come guerrigliero eroico, libera da tutti i diritti di riproduzione. Da Cuba Feltrinelli dichiara ormai conclusa la sua attività di imprenditore e che dedicherà tutte le sue forze alla causa rivoluzionaria. Lo fa anzitutto come editore. In marzo pubblica Senza tregua. Questi almeno sono quelli che mi sono procurato io. C'è una progressione di pubblicazioni, questo devi tradurre, in un breve margine di tempo, dal marzo del 67, e quindi Senza tregua di Giovanni Pesce, fino alla fine del 67 è tutto un uscire di libri, opuscoli e riviste. Also von da marzo 67 alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno, sì. Von März 67 fängt an mit Senza Tregua von Giovanni Pesce herauszugeben, und ab dann bis Ende Jahr wird er ganz viele andere Bücher und auch Magazine herausgeben. Ma più o meno? Cioè, tantissimo, cosa vuol dire? Beh, direi almeno una ventina di titoli. Um die 20 Titel. Es gibt so ein Crescendo von Publikationen in dieser Zeit. In particolare gli opuscoli ne escono tanti. Foran opuscoli? Sono questi. In brochure form, kommen foran viele raus. In particolare opuscoli tascabili a bassissimo prezzo, regolarmente rubati nelle librerie. Die auch sehr preiswert sind und aber trotzdem oft gestohlen werden in den Buchhandlungen. È una collana specifica sulla rivoluzione, sui rivoluzionari, sulla guerriglia, sulle tecniche di guerriglia, esperienze guerrigliere, e quindi comincia a pubblicare anche Che Guevara in particolare. Comincia un innamoramento per Che Guevara che poi durerà tutta la sua vita. Also diese Broschüren sind alle über über die Guerilla Techniken, aber auch Ideen und dann fängt an Che Guevara zu veröffentlichen, und es beginnt eine große Liebe für Che Guevara. Scusate un attimo, mi ha scritto Oreste. Dice che può connettersi, che è appena arrivata a Parigi, e può connettersi verso le 18:30. 18:30 wird sie vorreste. Sì. Doch noch verbinden können. Salute cieco tutti quanti. Posso chiedere come va avanti il programma dopo, per sapere anche quando c'è spazio per Swiss? Difatti cronologicamente sarebbe verso stasera, verso più tardi. Non so se devi partire. Tu devi ripartire presto? Devo Swiss o anche. Non so com'è. Prima cieco. No, Swiss è qui. Ah, ok, allora. Posso fare una proposta? Sì, dimmi. Visto che Oreste si può collegare verso le 6:30, se magari verso un quarto alle 6 cominciamo, sì, sì. Swiss e poi io, e così quando entro Oreste possiamo, sì, in qualche misura anche dialogare un attimo. Certo, certo, certo, e dipende Oreste se poi riesce. Può andare bene? Sì, no, perché in Svizzera parla un quarto d'ora, un po' meno a volte. Sì. Quindi fareste un dialogo. Scusa, Swiss per te va bene, quell'ora. Sì. Ok. Quindi 6:15 si cominciano con le varie, giusto? Viertel vor sechs fangen wir dann mit den verschiedenen Beiträgen an. E prima. Ok. Possiamo anche fare alle 5, poi aspettiamo la estate, non so, ma vedete voi. Sì. Sì, ma direi che come proponi tu va bene. benissimo. Sì, sì. Ok, proseguiamo. Proseguiamo e poi... Ich spero ich das gut so. Also um 17:45 werden Swiss und Tscheko ihre Beiträge dazu geben und dann wird noch eine Video, also ci sarà la connessione, ci sarà un discorso tra voi anche lui oppure è una cosa, sono tre cose separate, perché anche io non farò una sessione davanti al computer, nel senso che interloqueranno. Und dann wird es auch, also werden sie... Se fosse possibile mi piacerebbe, dato che io e Oreste abbiamo ricordi molto comuni. E certo, è certo. Io intanto sto arrivando in zona critica. Mi piacerebbe fare questo. Diciamo che io sto arrivando... Non capisco... Cosa? È possibile detradire che cosa? Intervenire sempre interrotto dalla direzione. Also immer wenn ihr anfangt zu übersetzen, wird es wieder unterbrochen, wir verstehen gar nicht, um was es gerade geht. Um den Ablauf irgendwie. Ja, genau, um den Ablauf. Also um 17:45 werden Sie zwei und Oreste Stallone werden zusammen diskutieren. Also Oreste Stallone wird erst um 6:30 dazukommen und sie werden dann auch noch zusammen diskutieren. Vorher machen sie ihre Beiträge und vorher machen wir hier weiter. Le immagini previste per il film sono già fisse oppure... No, sono una serie, già sono scelte. Ein Teil ist ausgewählt. Er zeigt sie gleich. Ci sono diverse immagini di eventi, questa è Genova 1960. Verschiedene Bilder von Ereignissen, das ist Genova 1960. Manifestazione contro il comizio del Movimento Sociale Italiano. Il comizio demonstrazione gegen la manifestazione del movimento sociale. Aspetta, passo un attimo il computer che cerco. Una protest gegen die Demonstration oder den Aufmarsch des Movimento Sociale Italiano, das ist die faschistische Organisation. Ja, genau, es ist eine Demonstration gegen den Aufmarsch. Gegen den Aufmarsch, ja, danke. 1960, questa manifestazione in particolare fa parte del patrimonio storico poi dei rivoluzionari del 68. Questa manifestazione qual è? Questa è di Genova 1960. Sono due eventi prima del 68 che sono presi come riferimento dal 68 e in seguito e poi. Allora, la manifestazione del 68 a Genova e quell'altra che dicevi qui, contro il comizio. No, è sempre quella, è Genova 1960. E l'altra che dicevi? No, quest'altra è Assassin's... Torino 1962. Es werden vor allem diese zwei Ereignisse, diese in 1960 und Torino in 62 aufgegriffen, die als Symbolbilder vor dem 68 gelten. Also für dann zum 68 zu kommen. Qui già nel 1966 c'è l'occupazione all'Università di Trento. Im 66 ist die Universität in Trento besetzt worden. La diffusione del prodotto, del documentario, dovrebbe avere. Penso che ne sia. Io ho la domanda. Sì. Wo wird dieser Dokumentarfilm gezeigt oder verteilt? Dunque, centri sociali, circoli culturali, centri di aggregazione, cioè quindi politico praticamente. Sì, penso a quel circuito in particolare come circuito possibile, anche proprio per quel problema che si diceva prima di conoscenza minima del contesto politico, sociale, economico dell'epoca o se non dell'epoca comunque di oggi perlomeno. Cioè quindi persone non digiune da un minimo di analisi politica. Also es wird eher an politischen kulturellen Zentren gezeigt werden, oder es ist gedacht für diese Zentren, genau um dieses Problem, das vorher angesprochen wurde, von der Kenntnis der Materie. Qui, dato che già ne ho parlato, questa è l'originale foto di Korda. Das ist das original foto von Korda. Ma quella che è diventata famosa non è questa, è stata tagliata. Und geschnitten ist das foto das dann berühmt wurde. In questo modo, con questo taglio così stretto, tutta l'attenzione è rivolta allo sguardo. Bei diesem so geschnitten ist die ganze Aufmerksamkeit auf den Blick gerichtet. E Feltrinelli ha avuto proprio l'occhio per capire come quella immagine poteva dare il massimo. Und Feltrinelli hatte das Auge, um zu verstehen, wie dieses Foto am besten rauskam. Appunto, qui. Aspetta che c'è una domanda. Nein, das machen wir fertig. Ah. Also diese Fotos, aber ich habe da eine Frage. Puoi anche continuare. Ha una domanda, ah. Ma. Also zwei Fragen. Hat Feltrinelli später sich auch kritisch mit Che befasst? Oder und gab es Kritik, gerade zum Beispiel aus der feministischen Bewegung oder von anderen Teilen der Bewegung an dieser sehr großen Verliebtheit in Che oder diese Identifikation? Gab es da irgendwie Reaktionen oder war das alles gut? Chiede se Feltrinelli poi a un certo punto si è anche approcciato criticamente a Che Guevara, oppure, e poi la seconda domanda è se c'è stata una critica forse dal movimento femminista o da altre parti nei confronti di questo innamoramento di Fettinelli. Per il Che Guevara? Sì. No, dunque, allora, secondo me, cioè la mia impressione è che lui non conoscesse personalmente il Che Guevara e che abbia, si sia scontrato, si sia in qualche modo sia cambiata la sua percezione di Che Guevara proprio tramite quella foto. Proprio per cambiata, il tramite di quel cambiata, foto. Cambiata nel senso che comunque da un certo momento in poi lui diventa un guevarista acceso. Okay. Er hat den Eindruck, dass er Che Guevara nicht persönlich kannte und dass er eigentlich durch dieses Foto quasi diese Verliebtheit entwickelte und dass er dann zum Che Guevarista, zum absoluten Che Guevarista wurde. È stato forse il maggiore propagandista di Che Guevara come pubblicazioni e poi appunto la foto quella è diventata un mito proprio e quindi è andata anche oltre, molto oltre le intenzioni, l'effetto di quella foto. Però appunto sì. Er hat wahrscheinlich die größte Propaganda von Che Guevara gemacht, auch durch die Publikationen und durch das Foto, das dann wahrscheinlich viel weiter gegangen ist als ursprünglich gedacht. Ed è stato anche un motivo delle difficoltà di relazione nel tempo successivo con le Brigate Rosse, perché lui partiva da un'idea di guerriglia guevarista, quindi in montagna, in territori impervi, mentre invece le Brigate Rosse avevano in mente la metropoli e quindi erano due visioni diverse. Und das hat auch zu einem mi manca la parola scontro, zu also die Brigate Rosse und Feltrinelli hatten dann eine Meinungsverschiedenheit, weil Feltrinelli war so sehr von Che Guevara beeinflusst, dass er die Guerilla, also der Kampf eher in dem Tal, also in auf dem Lande sah, und hingegen die Brigate Rosse waren eher auf die Städte und die Metropolen konzentriert. Also ganz unterschiedliche. Foto. Ok. Gigi. Quando è cominciato il contatto? Quando c'è stato il primo contatto tra Feltrinelli e le Brigate Rosse? 1969. No, prima che diventassero Brigate Rosse, comunque già avevano relazioni. Bevor sie die Rote Brigade wurden. Infatti andrei avanti. Dove? Okay. Aspetta che ti ridò il testo. Aspetta. Esatto. Ah no, eravamo arrivati più giù. Eravamo arrivati quasi in fondo. Allora, in marzo pubblica Senza Tregua di Giovanni Pesce. Sì, ecco. Sulle attività partigiane dei GAP e con la collana Libreria, in cui pubblica testi rivoluzionari, biografie, resoconti di lotte studentesche operaie e manuali di guerriglia. Tra i primi opuscoli pubblicati a fine maggio esce Creare 2-3 molti Vietnam di Ernesto Che Guevara. È evidente che Feltrinelli ha trovato il suo ideale guerrigliero e lo sposa in pieno. Il 1 giugno scrive al presidente USA Johnson chiedendo il suo intervento per la liberazione di Debré. Il 2 giugno a Berlino, durante una manifestazione contro la visita dello Shah, lo studente Ben Honesorg viene ucciso dalla polizia. È un evento chiave nella scelta della lotta armata da parte di alcuni militanti tedeschi. In estate, Feltrinelli ospita a Villa Deati Ulrike Meinhof, conosciuta tramite Inge, e incontra in Germania Rudi Dutschke e Horst Mahler, che farà poi parte della RAF. Il 3 luglio Debré conferma in un'intervista la presenza del CE in Bolivia. Il 26 Feltrinelli a Cuba per l'anniversario dell'assalto della Moncada e il 9 agosto, in accordo con le autorità cubane, sbarca a La Paz. Ufficialmente l'editore vuole tutelare gli interessi del proprio scrittore. Di certo cerca un contatto con il CE per sostenere la sua lotta e magari per avere un suo scritto. Si fa raggiungere da Sibilla, ma qualche giorno dopo sono arrestati entrambi dalla polizia boliviana e interrogati, forse personalmente dal colonnello Quintanilla, che ha in seguito condotto l'operazione di occultamento del corpo del CE. L'arresto diventa un caso diplomatico, interviene addirittura il presidente italiano e dopo 2 giorni Sibilla e Gian Giacomo sono scarcerati ed espulsi dalla Bolivia. In pratica, all'inizio del 1967 c'è questo cambiamento radicale in Feltrinelli, che decide di abbandonare, di mettere da parte le attività editoriali e di dedicarsi completamente alle attività di guerriglia. In realtà sarà un passaggio più graduale, ma intanto appunto comincia a livello editoriale a pubblicare tutta una serie di opere e a livello di relazioni a stabilire contatti. Abbiamo visto per esempio con la RAF, con i militanti della RAF. In 1967 wird Feltrinelli sich immer mehr der Guerilla hingeben und immer weniger dem Verlag. Also es beginnt eigentlich mit dem Verlag von diesen Broschüren über die verschiedenen Guerillataktiken, bis er dann der Verlag immer mehr abgibt und sich nur noch dem Kampf widmet. Und auch durch die Kontakte, also das sieht man auch in den Kontakten, die er immer mehr mit anderen, zum Beispiel mit Anhänger der RAF und so. Rientrato in Italia, avvia la pubblicazione di Tricontinental, rivista internazionalista, questa è il numero 2, cioè il numero 1. Ecco, questo qui è il numero 1 con un'immagine di tipo vietnamita, invece il numero 2 c'è una pagina del diario del diario in Bolivia di Che Guevara, del manoscritto. Also diese zwei sind diese Tricontinental magazine. Sì, tanto si è visto. In settembre edita per nell'autunno diverse sedi universitarie sono occupate degli studenti. A Venezia nasce Potere Operaio. Gli opuscoli della libreria si diffondono nei circoli operai e studenteschi. In settembre edita per la collana Libreria l'opuscolo Rivoluzione nella Rivoluzione di Regis Debré. In Liguria conosce Giovan Battista Lasagna, già comandante partigiano. Nello stesso mese appare su Vogue Uomo vestito con cappotto e col baco, una bizzarria piuttosto spiazzante, e non è la sola. Diverse testimonianze riferiscono infatti della sua abitudine di dormire per terra o all'aperto, addirittura sotto la pioggia, e del crescente nervosismo. Ha un carattere difficile, chiuso, riservato, sul lavoro è pignolo, a volte collerico con i collaboratori. non è un teorico ma un organizzatore con discrete abilità manuali. Ha una grande familiarità con le armi fin da bambino e un interesse per gli esplosivi nato durante la guerra e specializzato nei soggiorni a Cuba e forse in Cecoslovacchia. In Bolivia intanto, braccati, feriti, malati, il CE con i suoi tentano di sganciarsi, ma restano intrappolati e l'8 ottobre devono arrendersi. Senza alcun processo viene fucilato il giorno successivo, con il benestare nordamericano. Le autorità boliviane diffondono la notizia solo due giorni dopo, l'11 ottobre. Il giorno successivo, il 12, si apre la fiera del libro a Francoforte. Feltrinelli viene intervistato e alle sue spalle appare un grande manifesto con la foto di Korda, nel taglio che tutti conosciamo. Solo il 15 Castro dà la conferma ufficiale della morte del CE. E qui io ho il filmato. Il filmato di? Oh, scusa, ho il filmato del momento in cui appare per la prima volta la foto del CE. Das ist die Aufnahme von dem Moment, als das erste Mal das Foto von Che Guevara veröffentlicht wird, präsentiert wird. Nell'intervista qui l'audio non si sentiva granché. Perché non me lo rimette indietro? E quindi ancora non è ufficiale la notizia della morte del CE. Lui c'ha già pronto il manifesto. È una velocità di azione incredibile. Nell'intervista spiega che alla giornalista che gli chiede ma quello chi è? Dice è un ministro, ex ministro cubano che va in giro per il mondo a aiutare i movimenti di liberazione, dicono che sia morto, ma forse non è vero, forse ancora non si sa. In dem Moment ist der Tod von Che Guevara noch nicht bestätigt. Und die Journalistin fragt ihn, wer ist er? Und er sagt, er antwortet, es ist ein kubanischer Minister, der in der Welt herumgeht und seine Idee propagiert. Und man sagt, er sei tot, aber man weiß es nicht. Baffa, come lo tolgo adesso qui questo? Dov'è che... Probabilmente qui. Die Frage, wenn so zurückhaltend war und schwieriges Charakter, gab es denn eine feste Gruppe um ihn herum? Also, er hat viele Kontakte gehabt, aber war er eingebunden in eine feste Gruppe? Oder? Feltrinelli era legato a un gruppo, visto che era comunque abbastanza schivo. Ah no, certo, la storia è abbastanza complessa. In realtà lui ha un suo gruppo che costruisce anche in virtù dei soldi che ha, e quindi comunque stipendia una serie di persone, le finanzia per comprare armi, per esplosivi, appartamenti che servono come basi, sia in Italia che qui in Svizzera aveva degli appartamenti a scopo di guerriglia. Da er gute finanzielle Möglichkeiten hatte, hat er eine Gruppe von Leuten, die er bezahlte, für das sie Waffen und Wohnungen an verschiedenen Orten kauften. Und in Italien, aber auch in der Schweiz gab es verschiedene Wohnungen, die ihm gehörten. Von dem her, ja, er hat eine Gruppe. Io ho una domanda. Quale struttura narrativa pensi di dare al film? Welche narrative struttur willst du dem Film geben? Ma più neutro possibile. Più neutro possibile. Che non è facile, però per un documentario penso sia quella più ideale. L'unica cosa che mi lascia perplesso è sul fatto poi se sia godibile come ascolto, e quindi il peso del testo deve essere calibrato bene, perché troppo testo poi diventa troppo pesante. Sono i tragi möglich. Es ist schwierig, aber ich glaube, für einen Dokumentarfilm ist es das Richtige. Man muss dann schauen, wie viel Text dann noch erträglich ist, weil zu viel Text ist dann zu schwerfällig. Questa è la foto su Vogue Uomo. Che capita poi in un periodo realmente caotico della sua vita, e c'è questo exploit non facilmente interpretabile, insomma, si è prestato sì, in qualche modo c'era forse quelli che chiamano lì. Schwieriger Zeit seines Lebens wird dieses Foto auf Vogue veröffentlicht von Feltrinelli, und es ist schwierig zu interpretieren, was genau der Zweck oder das sein sollte. La presenza del manifesto alla fiera era forse già prevista. Cioè, voglio andare un po' su, perché così non ci sono le teste nostre a interferire. La presenza del manifesto alla fiera era forse già prevista, o forse organizzata all'ultimo momento. In ogni caso, immediatamente l'editore manda in stampa migliaia di copie del manifesto. Lo mette in vendita nelle librerie, lo allega alla rivista 15 che va subito esaurita, e nello stesso ottobre pubblica significativamente Guerra di Guerriglia. Sulla copertina campeggia la foto di Korda. Mette subito in moto anche la sua rete internazionale di contatti nel mondo dell'editoria, ma la mossa vincente è la libertà da qualsiasi diritto di riproduzione, e velocemente l'immagine si diffonde ai quattro angoli del pianeta, diventando in breve il simbolo unificante di tutti i movimenti rivoluzionari. È stata velocissima la diffusione. È stata il 68, c'era l'immagine del CE, e quindi a sei mesi di distanza dall'ottobre già si era globalizzata l'operazione. Die Verteilung des Foto war extrem schnell, also in 8 Monaten hat sich das Foto quasi globalisiert. Und im 68 gab es das Foto von Che, war sehr verbreitet. È una campagna di propaganda rapida ed efficace, estesa a livello globale e ancora vitale a 50 anni di distanza, nonostante le incrostazioni commerciali. Con la diffusione di quella foto, l'editore ha creato il mito di Che Guevara. Si rivede in lui e intende proseguirne l'opera con ogni mezzo. Sono sempre più numerosi i segnali di quello che avverrà tra pochi mesi. A metà novembre vengono occupate la Statale di Milano e Architettura Torino. Ai primi di dicembre Gian Giacomo è a Cagliari. Tiene una conferenza intitolata Sardegna, una Cuba del Mediterraneo, in cui propone l'avvio in Barbagia di una guerriglia sul modello guevarista. Pensa di poter contare sull'appoggio dei banditi sardi e cerca un contatto con il più famoso, Giuliano Mesina, che lascia cadere la cosa dopo un incontro con un ufficiale del controspionaggio. Invia Saverio Tutino in Sicilia per sondare gli ambienti indipendentisti, ma senza esito. Migliori risultati li ottiene in Liguria, dove insieme a Lasagna mette le basi dei futuri gruppi di azione partigiana. È il dicembre del 1967. E questo mostra come di lotta armata se ne parlava già prima del 68. Das zeigt, wie man, dass man von bewaffnetem Kampf schon vor 68 sprach. Il 68 si apre con la contestazione della prima al Regio di Parma, il 25 gennaio. Il 30 inizia in Vietnam la grande offensiva del Tet. Feltrinelli è prima a Cuba, poi in Venezuela, dove probabilmente incontra esponenti della guerriglia. Scrive un saggio su guerriglia e politica rivoluzionaria ed entra nell'edizione della sinistra, portandolo da mensile a settimanale. A metà febbraio tiene un discorso al congresso sul Vietnam a Berlino. In quell'occasione, forse, consegna un pacco di dinamite al leader del movimento studentesco tedesco, Rudi Dutschke, che non sapeva cosa fare di questo, si è ritrovato questo pacco di dinamite tra le mani. Questa è una cosa abbastanza recente, si è risaputa, è un'intervista a Dutschke in epoca recente. Dutschke wusste nicht, was er mit dieser Packung Dynamit anfangen sollte, hat man vor kurzem erfahren. E io di quel discorso eccola, questa è un'immagine, è uno spezzone di un video, è un'immagine da un video di quel discorso a Berlino. Però io ho provato a cercare il testo del discorso, ma non sono riuscito a trovarlo. Das ist ein Bild von dieser von seinem Beitrag in Berlin. Er hat versucht den Text zu finden, aber er hat ihn nicht gefunden. Svisse, tu sai se Carlo per caso ce l'ha? Il primo marzo a Roma gli studenti reagiscono alla violenza dei Cederini. La giornata sarà ricordata come battaglia di Valle Giulia. Nei giorni seguenti vengono occupate, sgomberate e rioccupate numerose sedi universitarie e alcuni istituti superiori. Gli studenti si scontrano più volte con la polizia e con i fascisti. Il 16 marzo a Roma i fascisti, guidati dall'ammirante, attaccano la facoltà di lettere alla Sapienza. Il leader studentesco Lesse Scalzone resta ferito alla schiena. Feltrinelli incontra a Milano Renato Curcio e altri dirigenti delle lotte studentesche e pubblica nella collana libreria il proprio scritto «Persiste la minaccia di un colpo di Stato in Italia», in cui ribadisce la necessità non solo della resistenza armata, ma anche di un'offensiva rivoluzionaria. L'11 aprile Rudi Dutschke viene ferito da colpi di pistola. Il 13 a Milano la manifestazione di solidarietà con lo scrittore porta scontri davanti alla sede del Corriere della Sera. Feltrinelli viene indagato come organizzatore, sarà poi prosciolto. Il 1 maggio partecipa con Sibilla alla manifestazione contro la guerra in Vietnam a Berlino. Il giorno successivo alcune centinaia di studenti occupano il piazzale della Sorbona. È l'inizio del maggio francese. È primi di giugno Gian Giacomo è a Cuba, dove riceve da Fidel Castro copia del diario in Bolivia del CE, che sarà pubblicato a luglio con un'operazione coordinata con altri editori internazionali. In copertina c'è la foto di Korda e come la foto anche il libro è libero da diritti di riproduzione. è questo. Inoltre, la prima edizione, questa qui, il ricavato della prima edizione lo ha devoluto interamente ai movimenti rivoluzionari dell'America Latina. Ricavato, aiutatemi. Also was er mit der ersten für mit dem ersten mit der ersten Edition Entschuldigung, ich habe gerade eine Blackout. Was er mit dem ersten, also die erste Ausgabe verdient hat, ging alles an revolutionäre Gruppierungen. Il 18 luglio compra a Milano una Colt Cobra. Il giorno dopo è sul lago d'Iseo al convegno di Faccio e Martello, il gruppo di ispirazione marxista-leninista. Sempre a luglio nasce a Porto Marghera il comitato di base operaio, presto seguito dal comitato di base della Pirelli a Milano. L'11 novembre accoglie a Milano il convalescente Rudi Dutschke, che sarà suo ospite per un mese. Lo stesso giorno il circolo giovanile di Orgosolo occupa il comune, depone la giunta e per 4 giorni il paese è gestito dall'Assemblea Popolare. I documenti dell'Assemblea vengono pubblicati nelle edizioni della libreria. Il 2 dicembre è di nuovo in Sardegna. Messo in disparte, ma non dimenticato, il progetto di guerriglia, Feltrinelli torna altre volte sull'isola e mantiene contatti con intellettuali indipendentisti e soprattutto con Eliseo Spiga, di cui pubblica 2 opuscoli. In tutto sono 6 gli opuscoli della libreria dedicati alla Sardegna. Sicuramente ammira la capacità millenaria di resistenza agli invasori in Barbagia e vede nell'indipendentismo sardo, come in quello altoatesino, una molla capace di far scattare un momento insurrezionale. Sul finire dell'anno, all'aeroporto di Madrid, conosce Tony Negri, poi va a Cuba. La notte di Capodanno la contestazione alla bussola di Focette sfocia in gravi scontri. Nei primi mesi del 69 nascono i comitati di base operai a Milano, Torino, Bologna, Roma, Pisa, Napoli. Il 9 aprile 2 manifestanti restano usciti negli scontri a Battipaglia. Il 25 aprile un attentato allo stand Fiat alla fiera di Milano causa diversi feriti. Un secondo irrigno inesploso viene ritrovato in stazione centrale. Feltrinelli sposa Sibilla Melega il 21 marzo a Lugano. Il 4 maggio è a Baunei alla manifestazione contro il parco del Gennargentu, insieme ai giovani del circolo di Orgosolo. A Colonia conosce Edoardo Ravelli, un operaio sardo emigrato e successivamente tramite lui altri emigrati. Giuseppe Saba, Antonio Cabras, Emilio Opes, Guglielmo Bondino. Il 27 maggio compaiono a Orgosolo manifesti che intimano lo sgombero dei pascoli di Pratobello per un'esercitazione militare. L'intera popolazione del paese partecipa all'occupazione dei terreni, contrastando ogni giorno i militari che infine rinunciano e si ritirano. In quell'estate si reca almeno 3 volte a Ulm per incontrare il gruppo dei sardi, distribuisce opuscoli per il loro circolo, arruola quelli disponibili alla lotta armata. Il 2 luglio apre a Lugano il conto Robinson Crusoe, da cui attingerà per le attività clandestine. Ritiene ormai imminente il colpo di Stato, pubblica Estate 1969, in cui ribadisce la necessità di essere pronti da subito alla resistenza armata. Le imminenti ferie estive con le grandi fabbriche chiuse sembrano un momento più favorevole per un golpe. Feltrinelli si trasferisce assieme a Sabra, Cabras e altri in una cascina a Cerfoglio, poi a Rocchetta Ligure, per addestrarsi con armi ed esplosivi. Li raggiunge anche un tecnico tedesco di telecomunicazioni, Wolfgang Meyer, per istruirli sull'uso di apparecchi radio. Dopo alcuni giorni il gruppo si scioglie perché la situazione appare tranquilla, ma tra l'8 e il 9 agosto diversi ordigni esplodono su treni e in stazioni. Carta Palese o Tote, per esempio, Bombardier? Carta Palese o Tote, per esempio, Bombardier? sono stati morti e feriti? Nelle bombe? Le bombe quelle di Milano del 25 aprile? No. Quelle del 8-9 agosto. 8-9 agosto, no, senza attentati dimostrativi, senza vittime. One offer, molte manifestazioni. Diciamo che già prima del 69 la Svizzera per Feltrinelli è un punto di riferimento importante, è uno snodo, è un luogo in cui incontrare persone e dove tenere i soldi. Apre un conto con 1 miliardo e più e alcune centinaia di milioni di lire dell'epoca. Ripeti, Lugano, cosa? Sì. Da quando? Dal... Già prima del 69 usava la Svizzera proprio anche per incontrare gente. Also schon vor 69 war Feltrinelli oft in der Schweiz, um Leute zu treffen oder dieses Konto zu eröffnen, wo er viel Geld darauf buchen konnte. Ma tu dicevi... Non c'erano state vittime? Vittime non ricordo, però feriti sicuramente. Forse ferite? Erano stati messi dal gruppo di Freire Mettura, il gruppo sì. Leo Fascista. Es gab Verletzte und die Bomben waren vom Gruppo, come si chiama? Di Fred e Ventura. Ah, Fred. Non ci sento. Bomben waren von Faschisten. Ja, genau. So ist mein Glas, das war die Gruppe. Und es gab Verletzte, aber keine Tote. A fine agosto Gian Giacomo è a Cuba con Sibilla. Ritorna a settembre e a fine mese rientra in Italia. E in autunno partecipa a una riunione del circolo Città Campagna Oristano. Sempre in autunno pubblica nelle edizioni della libreria l'opuscolo Lettere dei Emigrati e Compagni del Mezzogiorno, realizzato con la collaborazione di Sava e Ravelli. L'8 settembre viene fondato a Milano il Collettivo Politico Metropolitano, in cui confluiscono militanti di comitati di base e di gruppi di studio di operai studenti. In ottobre nasce a Genova il gruppo 22 ottobre, giovani proletari cresciuti nella FIGC che decidono di passare all'azione. Il nome di fonte giornalistica fa riferimento alla data di un biglietto ferroviario ritrovato successivamente alla cattura dei componenti. Loro però si considerano una brigata GAP, in contatto con Feltrinelli ma con ampia autonomia d'azione. La questione della 22 ottobre è problematica. Ci sono i superstiti della 22 ottobre che sono poco collaborativi, non vogliono parlare di Feltrinelli. E troncano il discorso, si trincerano dietro il segreto politico militare, però non dispero di riuscire alla fine di convincerli a spiegarmi alcune cose che non mi tornano, cioè ci sono delle cose che non mi tornano personalmente. Per dire 22 ottobre gruppo gibt ist es ein bisschen kontrovers, diese die es noch gibt heute, wollen nicht über Feltrinelli sprechen und er würde gerne mit ihnen sprechen, aber er hofft sich nicht allzu viele Resultate oder allzu viel Zugang zu erhalten. Paolo, aber tu che hai sentito di loro? Mario e Beppe. Anche Beppe che ha detto di loro? A me mi dà l'impressione che lui segua un po' le direttive di Mario. È rimasto la mia impressione, però tutte e due la posizione è la stessa, rivendicano la loro indipendenza da Feltrinelli, però poi non sono disposti a rispondere a domande specifiche, tipo dove si sono procurati la radice trasmittente, chi ha imparato, come hanno imparato a usarla, chi materialmente la voce, di chi era la voce che dei comunicati, cioè quindi questi dettagli tecnici non sono proprio chiusi. Questo sarà anche difficile che lo dicano, perché c'erano delle persone che non sono mai state agli interventi, certo. Also er hatte mit Beppe und Mario von dieser Gruppe Kontakt, und Beppe hat, er hat das Gefühl, dass Beppe ein bisschen die Anweisungen von Mario befolgt, und beides sind nicht wirklich bereit, technische Details zu teilen und insistieren auf der Tatsache, dass sie unabhängig von Feltrinelli waren. Questa è un'immagine, della fine della 22 ottobre, tentativo di rapina andato male, vengono presi quasi tutti tranne uno che passerà con Feltrinelli. Das ist das Ende des 22. Oktober. Das ist ein Raubversuch, der schlecht ausging, und es werden fast alle gefasst, außer einer, der dann zu Feltrinelli geht, also mit Feltrinelli geht. Quello che spara è Mario Rossi. Der schießt ist Mario Rossi. E quello che guida è Gustavo Viel, che poi viene preso da Feltrinelli e inserito nel suo gruppo armato. Und der am Steuer sitzt ist Gustavo Viel, der dann in die Gruppe von Feltrinelli in der Gruppe von Feltrinelli aufgenommen wird. Per dirla tutta, cioè il mio sospetto. Augusto Viel. Regione. Agostino, detto. Tino. Sulla 22 ottobre, cioè, la mia idea è che qualcuno di loro fosse presente a quel ritiro a Cerfoglio nel luglio del 69, dove proprio si esercitarono sia l'uso di esplosivi sia l'uso della radice trasmittente per fare le interferenze telefoniche. Cioè loro le fanno, cioè, e lì veniva insegnato come farle. Le due cose non possono non essere collegate, cioè sarebbe praticamente impossibile. E il ritiro era? A Cerfoglio, nel 69, qui ce l'abbiamo qui. Also er hat den Verdacht, dass einige von der vom 22 Oktober an einer Retrette qua forse. Sì. Scusami, quando sono? Un attimo per la traduzione. Aspetta, dov'è? Genau, er hatte der Verdacht, dass einige von dieser Gruppe hier in Cerfoglio dabei waren, wo man eben mit Sprengstoff trainierte, aber auch mit dem mit den Telekommunikationstechniken in modo che potessero fare intercettazioni telefoniche, giusto? No, facevano delle interferenze nelle trasmissioni della televisione, del canale televisivo. Oder auch Störungen für die Fernseh Kanäle, also Fernseh Kanäle machen. Und sie konnten das und deswegen hat er den Verdacht, dass, dass jemand dabei sein musste. Okay. No, volevo chiedere per Paolo se si ricorda di che periodo sono le prime trasmissioni di Radio Gap a Genova. A Genova, certo, ci arriviamo adesso perché siamo a ridosso. Quindi ci arriviamo adesso. Allora, tra il primo e il 4 novembre si tiene a Chiavari il convegno del collettivo politico metropolitano milanese, che cambia nome in Sinistra Proletaria. Il 19 novembre sciopero generale nazionale per la casa a Milano, negli scontri muore l'agente di polizia Anna Lumma. Il 4 dicembre Feltrinelli viene interrogato per l'attentato del 25 aprile alla fiera di Milano. Quindi il 4 dicembre viene interrogato per l'attentato del 25 aprile alla Fiera di Milano, inquisito per favoreggiamento dei presunti responsabili e in seguito prosciolto. Il giorno dopo preleva 27.000 franchi dal conto Lugano e va a Oberhof, in Austria, nella sua casa di campagna. Il 10 Sibilla preleva altri 20.000 franchi e altri 50.000 sono trasferiti sul conto 11.002 Senior. È ancora ad Oberhof il 12 dicembre quando una bomba esplode alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Spontana a Milano, con molte vittime. Un altro ordigno viene ritrovato inesploso alla Banca Commerciale. Tre scoppiano a Roma con diversi feriti. L'impressione è grande in tutto il paese. Per lui è il segnale chiaro di un'offensiva reazionaria. Il 13 rientra a Milano, dove gli inquirenti hanno imposto alle indagini la pista anarchica e ci sono tentativi di coinvolgerlo direttamente. Si rifugia da Lasagna a Genova, dove resta un paio di settimane, dove incontra Scalzone, Fioroni, Negri e Piperno per organizzare il suo espatrio, temendo il controllo delle frontiere. Cominciamo. Werner Schweitzer ci parlerà dei rapporti tra Feltrinelli e Salecina. Werner? Werner wird uns über die Swiss. Wird uns etwas über die Beziehungen Feltrinelli, Salecina und Feltrinelli, Teopinco, alle erzählen. Bitte. Und Andrea wird die Übersetzung machen, ich mache kurze Sätze. Ja, schön, du hast die Erfahrung von Salecina da. Also ich habe Teopinkus 1975 kennengelernt, da war ich 20 Jahre alt und Salecina gab es damals seit 3 Jahren. Allora, Swiss ha conosciuto Theo Pincus nel 1975, lui aveva 20 anni e Salecina era nata 3 anni prima. Ich war mit Theo Pincus und anderen Studenten dann 3 Wochen in der DDR 1976 und ich war der Chauffeur von Theo Pincus und er hat mir sehr viel immer erzählt, damit ich nicht einschlafe beim Autofahren. Nel 76 è andato con Theo Pincus e altri e degli studenti nella DDR per 3 settimane. Lui era l'autista e allora Theo Pincus, per non farlo addormentare, gli raccontava molte storie. Daraus ist dann, ich bin dann auch nach Salecina gekommen. Ich war Alpinist, deswegen hat mich Salecina interessiert damals, nicht aus politischen Gründen. Aber ich bin nach Salecina gekommen und wir haben dann, als Theo und Amalie noch gelebt haben, gesagt, wir müssen eine Biografie schreiben oder wir wollen eine Biografie schreiben über Theo und Amalie. Das war zuerst Rudolf Lüscher, das war eine Gruppe von Leuten, die Gespräche geführt haben mit Theo, das ist auf Tonband aufgenommen worden, also mit Theo und Amalie, und daraus ist dann quasi diese Biografie entstanden. Allora, Swiss è venuto a Salecina perché era alpinista e non per ragioni politiche, o non principalmente per ragioni politiche, però attraverso questi contatti con Teo Amalia Pincus ha deciso con altri, un gruppo di autori, di intervistare Teo e Amalia e farne insomma, raccontare la loro storia. E da quello è nato questo libro che è Amalia. Yeah. Rudolf Lüscher ist dann, also der erste Autor ist überraschend gestorben und dann musste ich die Biografie schreiben. Er hat den ersten Teil gemacht bis in die 30er Jahre, also die ganze Politisierung von Theo und Amalie, wie sie sich gekannt haben und so weiter. Und ich habe dann von 1930 bis zum Schluss, unter anderem eben ist auch ein Kapitel über Salecina, wie ist Salecina entstanden, und natürlich auch über die Buchhandlung und über wie er Gian Giacomo Feltrinelli kennengelernt hat. Das haben wir alles aus diesen Gesprächen mit Theo und Amalie hier in diesem Buch zusammengetragen. Ja. Allora, Rudolf Lüscher, che era il primo autore del libro, è morto molto presto, si era occupato della prima parte della storia dei Pincus, cioè il periodo della politicizzazione. E, insomma, tutta la parte e Suisse ha quindi dovuto concludere il lavoro occupandosi soprattutto della seconda fase della vita politica dei Pincus, in particolare di Salecina anche. Hier sagt er hat Gian Giacomo Feltrinelli und Giuseppe Del Bo Anfang 60er Jahre kennengelernt als Kunde der Buchhandlung in Zürich. Weil Theo Pincus war Buchhändler, hatte einen Büchersuchdienst, war quasi die Zentrale für marxistische, kommunistische Literatur in Zürich. Und Giuseppe Del Bo und Gian Giacomo Feltrinelli sind hingekommen und haben bei ihm quasi den Grundstock von Instituto Feltrinelli gekauft. Also er war ein sehr guter Kunde und sie haben aber auch Gegengeschäfte gemacht. Feltrinelli hat Theo auch große Büchersammlungen gegeben, die er dann verkauft hat in die DDR oder in andere Länder. Also war eine Beziehung über Bücher und Verlag. Ja. Also kurze Sätze, hast du versprochen. Allora, Theo Pincus in questa intervista racconta che ha conosciuto Feltrinelli e Giuseppe Del Bo, che era un collaboratore di Feltrinelli, all'inizio degli anni 60. E il contatto è avvenuto perché Theo Pincus era libraio e aveva una delle più importanti librerie di letteratura marxista sulla storia del movimento operaio e così via, e Feltrinelli e Del Bo erano interessati ad acquistare materiali per l'Istituto Feltrinelli che stava nascendo in quegli anni, quindi era un punto di riferimento per fornire di materiali, libri, documenti. E d'altra parte c'era uno scambio anche, cioè, Pincus vendeva libri che provenivano dalla collezione Feltrinelli e li vendeva anche nell'Europa dell'Est. Und Theo Pincus hatte damals schon die Idee, dass er seine Privatbibliothek in eine Stiftung verwandelt und hat die genannt Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Also der genau gleiche Name, der dann Feltrinelli für sein Institut auch verwendet hat. Allora, Pincus aveva anche l'idea di creare una biblioteca sulla storia del movimento operaio che si chiama Biblioteca di Studio sulla Storia del Movimento Operaio, che ma non so se è proprio lo stesso come si chiama quella di Feltrinelli. No, si chiama Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. C'era poi anche un... l'archivio... no, mi sembra... In ogni caso è nello stesso spirito di creare una documentazione sulla storia del movimento operaio. La storia del movimento operaio. Sì, sì, sì, sì, sì. Ed è una fondazione che esiste ancora, tra l'altro. Ja, und ich bin immer noch Stiftungsrat. E Swiss fa parte del consiglio di fondazione di questa biblioteca zurichese sulla storia del movimento operaio. Also Feltrinelli war dann regelmäßig in der Schweiz, obwohl er Ende der 60er Jahre schon im Untergrund war. Er ist polizeilich gesucht worden. Aber in der Schweiz konnte er sich ohne weiteres bewegen in seinem privaten Auto. Er hat oft bei Amalie und Theo zu Hause gegessen. Also Amalia kommt ja aus Tessin, hat fließend Italienisch gesprochen und Gian Giacomo Feltrinelli hat fließend Deutsch gesprochen. Also die haben sich oft gesehen. Auch der Sohn von André Pincus, der Sohn von Theo Pincus, hat Feltrinelli mehrmals gesehen und war auch immer erstaunt, wie mondän er da auch mit seinen Sportwagen und so. Also eine ganz andere Erscheinung als die anderen Kunden der Bibliothek, der Buchhandlung. Allora Feltrinelli veniva spesso in Svizzera anche dalla fine degli anni, quando era già in clandestinità, cioè alla fine degli anni 60, in Svizzera poteva muoversi apparentemente in modo abbastanza libero, anche se era ricercato dalla polizia, e visitava spesso Theo e Amalia Pincus, mangiava con loro, tra l'altro Amalia di origini ticinesi, parlava anche italiano con lui, e anche il figlio dei Pincus, Andrea, si ricorda di questi incontri, di questa figura anche insomma di un'altra caratura mondana, stravagante, diversa dagli altri clienti del padre. Certo. Und ich glaube, in dieser Zeit hat Feltrinelli eben als, er wollte nicht genannt werden, Theo hat das dann auch nie offiziell bestätigt, aber er hat gesagt, ich habe einen Freund, der gibt mir, stellt mir 200.000 Franken zur Verfügung, um quasi ein Ferien- und Bildungszentrum zu finden, im Engadin, ohne Bedingungen. Es gab keine Bedingungen seitens dieses Spenders. Und er hat dann angefangen, im 1970 ein Haus zu suchen, hier in Engadin. Allora, Theo Pincus ha sempre raccontato, non ha mai fatto il nome, che qualcuno, un amico, gli aveva messo a disposizione 200.000 franchi per fondare un centro di formazione in Engadina senza altre condizioni. È probabile, non è dimostrato, ma è molto probabile che questo amico fosse Feltrinelli. E dal 1970 i Pincus hanno cominciato a cercare la casa, il luogo adatto per fondare questo centro. Theo hat mir diese anderen Häuser auch gezeigt. Eines war in La Punta und eine Idee war, neue Häuser zu bauen. Sogar, also die Prospekte, die gibt es noch im Archiv. Und schlussendlich war eben dann dieses Haus hier, das Theo Pincus und Amalia schon gekannt hatten aus der Zeit der Naturfreunde. Sie waren beide sehr engagiert bei den Naturfreunden. Und das war ja nicht wie der Alpenclub nur alpinistisch, sondern das war auch immer verbunden mit politischen Veranstaltungen, Diskussionen und so weiter. Und sie wollten eigentlich diese Idee der Naturfreunde, wollten sie quasi 1968 wieder aufleben lassen. Ein Grund war, Theo war gegen diese Aufsplitterung in die verschiedenen K-Gruppen. Er fand das idiotisch, er hat immer gesagt, keine Bewegung zu klein, um gespalten zu sein. Und er wollte eine Bewegung machen, die aus den verschiedenen Gruppen, dass die wieder zusammenkommen. Allora, tra le ipotesi, durante la ricerca della casa c'era, e Suisse ha anche visto le case, che c'era una casa alla Punt, che è un'altra località in Engadina, c'era anche il progetto di costruire qualcosa di nuovo, e invece questa casa qui, Theo e Amalia, se ho capito bene, la conoscevano già perché passavano, allora tutte e due erano impegnati nei Naturfreunde, che era un'organizzazione del movimento operaio di alpinismo, o di alpinismo o comunque di escursionismo in montagna, simile all'associazione proletari escursionisti che esisteva in Italia e altre associazioni legate al movimento operaio. E l'idea dei Pincus era anche proprio di rinnovare la tradizione di questi Naturfreunde come momento di riunificazione di una sinistra che si stava spaccando in tanti gruppetti. Questo era veramente un'ispirazione di questa operazione dei Pincus che voleva evitare questa frammentazione e quindi creare un luogo in cui fosse possibile che queste varie denominazioni si potessero incontrare. In dieses Bauernhaus hat ja der Familie Baldini gehört, das ist eine reiche Arztfamilie in Genua. Der Baldini kommt ursprünglich aus dem Bergell und Theo wusste, dass er das Geld hat, wenn er denn das Haus gefunden hat. Und sie haben dann im Dezember 1971, am 28. Dezember 1971 ist das Haus gekauft worden. Es gab lange Verhandlungen vorher mit Baldini, mit Bedingungen, da will ich nicht in die Details gehen, aber Fakt ist, das Haus ist am 28. Dezember 1971 gekauft worden. Allora, la casa apparteneva alla famiglia Baldini, una famiglia benestante di medici che risiede a Genova, però di origini bregagliotte. Il contratto di acquisto di Salecina è stato firmato il 28 dicembre del 1971. Muss ich kurz eine Klammer machen. Uns hat das lange nicht interessiert, wer ob Feltrinelli bezahlt hat oder nicht. Das war uns egal. Man hat so ein bisschen darüber gesprochen, aber wir haben uns im Salecina-Rat, eben Jürg Frischknecht war dabei, ich, andere Anna Ratti, das war für uns nicht wichtig. Es wurde uns erst eigentlich nach der Biografie wichtig, als in Zürich die Ausstellung über Gian Giacomo Feltrinelli, es war eine sehr große Ausstellung mit sehr vielen Dokumenten, vor 20 Jahren, 2002, ist diese Ausstellung gemacht worden. Also das ist, glaube ich, ja, nach dem Tod von Theo Pincus. Deswegen konnten wir ihn auch nicht mehr fragen. Und da haben wir einen Check gesehen von Gian Giacomo Feltrinelli an Theo Pincus von der Banco di Lugano, 50.000 Franken, der nicht eingelöst worden ist. Also, wieso gibt es diesen Scheck noch? Da haben wir uns überlegt, der Scheck ist nicht eingelöst worden. Und so haben wir dann angefangen zu recherchieren, wie war Feltrinelli, wie war er überhaupt beteiligt an Salecina. Il ruolo di Feltrinelli a Salecina in realtà all'inizio non suscitava un grande interesse nel Consiglio di Salecina, cioè la cosa non... E solo quando nel 2002 c'è stata una mostra su Feltrinelli a Zurigo, da cui è tratto anche quel numero della rivista Du, è nato questo interesse perché nella mostra era esposto un assegno, sì, di 50.000 franchi firmato da Feltrinelli, non riscosso per Theo Pincus. E da, sì, lì è nato l'interesse e anche la ricerca. Ed erano coinvolti Suisse, Jürg Frischknecht, che era un giornalista attivo nel Consiglio di Salecina, e anche Anna Ratti. Und wir haben dann herausgefunden, also das hat André Pincus, also das Haus ist ja erst dann 1972 umgebaut worden von den Studenten, also nach dem Tod von Feltrinelli. Also Feltrinelli ist 3 Monate nach dem Kauf des Hauses umgekommen. Das muss man wissen. Aber André Pincus hat mir gesagt, Feltrinelli war hier nach dem Kauf. Es war Winter, es muss, sehr wahrscheinlich war das Anfang Januar. Haben sie hier gegessen, da waren noch 2, 3 andere Freunde dabei, die ich kenne, die das bestätigt haben. Man hat nicht gesagt, das ist Herr Feltrinelli, aber alle haben angenommen, das ist, also André Pincus hat ihn gekannt natürlich. Aber es war nicht möglich, hier zu übernachten. Das war noch ein Bauernhaus. Der hat dann im Hotel vorne, in Maloja, hat er übernachtet. Aber er hat das Haus gesehen, das wissen wir ja. Und wir wissen auch, dass... Abbiamo detto acquisto... Il tempo come se ne... No, vai, vai. Allora l'acquisto del 71 della casa, nel 72 cominciano ad arrivare persone, si sa André Pincus, cioè il figlio di Theo e di Amalia, ha raccontato che Feltrinelli è stato qui, e quindi può essere solo nel gennaio 72. Cioè, il tempo era stato qui, ha visto la casa, però la casa era ancora era una casa contadina, non aveva ancora stati fatti, certo, i lavori nulla di ristrutturazione, quindi poi ha dormito in un albergo, una pensione a Maloja, però ha visto la casa. Aber wir wissen auch, dass am Schluss Theo große Probleme hatte, den Kaufbetrag zusammenzubringen. Er hat noch, also es gibt 2 Quellen, also einerseits hat die Studentenschaft von der Uni Bern hat 10.000 Franken bezahlt und eine private Frau, die jetzt in den USA lebt, hat 10.000 Franken bezahlt. Also Theo hat im letzten Moment noch verzweifelt Geld gesucht, um das Haus kaufen zu können. Und der Kaufpreis war, glaube ich, 180.000 am Schluss, zwischen 180.000 und 200.000. Also er hat nicht das ganze Geld, also das kann nicht sein, sonst hätte er diese Probleme nicht gehabt. Wir haben das alles recherchiert, wir haben mit den Leuten gesprochen, wir haben die Protokolle von der Studentenschaft. Also es hat zusätzliches Geld gebraucht, damit man Saličina kaufen konnte. Ich vermute, dass der erste Scheck vielleicht 150.000 waren und der zweite Scheck nicht mehr eingelöst werden konnte, weil Feltrinelli tot war und man vielleicht eben Angst hat, dass er keinen Zugriff mehr hat auf das Konto oder dass es überhaupt der Scheck nicht mehr eingelöst wurde. Das ist auch möglich. Also das ist so ein bisschen unsere Vermutung. Jetzt mit Zahlen, ich hoffe, das. Ja. Allora, a quanto sembra, Pincus non ha ricevuto tutti i 200.000 franchi promessi da Feltrinelli, perché al momento dell'acquisto della casa aveva ancora problemi di soldi, la casa costava attorno ai 180.000 franchi, quindi vuol dire che non aveva riscosso tutti i soldi di Feltrinelli e ha ricevuto poi degli aiuti da un gruppo di studenti bernesi, 10.000, da una donatrice privata che vive ora negli Stati Uniti, altri 10.000, quindi le ipotesi di Suisse, di quelli che hanno aiutato, che hanno partecipato a queste ricerche, che quell'assegno di 50.000 fosse a copertura del resto. Che fosse per il resto, ma che non sia più stato riscosso perché oramai Feltrinelli era morto. Questa è un'ipotesi. Sì. Ich muss auch sagen, Theo hat Feltrinelli sehr geschätzt, auch wenn sie vielleicht politisch nicht die gleiche. Theo war Mitglied der Kommunistischen Partei der Schweiz, der Partei der Arbeit, aber er stand da am Rand, am linken Rand. Er hat eine eigene Zeitschrift gemacht, der Zeitdienst. Und da hat er immer sehr viel, also auch unmittelbar nach dem Tod von Feltrinelli, hat er große Artikel im Zeitdienst geschrieben über Feltrinelli, wie er ihn eingeschätzt hat und was seine Vermutung war, wieso Feltrinelli umgekommen ist. Ja, Pincus apprezzava molto Feltrinelli, anche se forse politicamente non erano sempre sulla stessa linea, comunque anche Pincus, che era membro del Partito Comunista Svizzero, però diciamo nell'ala più a sinistra, e pubblicava anche una rivista, Zeitdienst, che in Suisse ora in mano, su cui sono apparsi vari articoli dedicati a Feltrinelli dopo la morte. Diese Nummer hier, das ist gerade 6 Tage nach dem Tod von Feltrinelli, hat er eine eigene Nummer, Gian Giacomo Feltrinelli, Partisan gegen die eigene Klasse. Und ich denke, das ist das Zentrale, was für Pincus sehr wichtig war, obwohl er sich auch mit Feltrinelli gut verstanden hat. Auch Pincus hat sich als Verräter seiner eigenen Klasse gesehen. Allora, c'è questo numero dello Zeitdienst, della rivista pubblicata da Pincus, che è di 6 giorni dopo la morte di Feltrinelli, e c'è il titolo che dice partigiano contro la propria classe. E che questo aspetto della biografia di Feltrinelli interessava particolarmente Pincus, che si trovava nella stessa situazione, cioè figlio della borghesia che aveva assunto posizioni politiche diverse. Ja, also der Vater von Theo Pincus war Banker, zwar einer russischen Bank am Schluss, er hat Konkurs gemacht, aber trotzdem Theo ist natürlich nicht in den gleichen Dimensionen wie Feltrinelli, aber er ist natürlich in der absoluten Oberklasse aufgewachsen und hat sich auch erst als 14-, 15-Jähriger zur kommunistischen Bewegung bekannt. Und für ihn, glaube ich, war eben dieser Klassenverrat, also wenn man es böse sagt, oder eben quasi, dass man die Klasse wechselt, das hat er immer wieder erzählt, und da war für ihn wirklich auch Feltrinelli das bekannteste und überzeugendste Beispiel auch für ihn. Il padre di Theo Pincus era un banchiere, era una banca russa che è fallita, quindi diciamo che Pincus non si trovava nella situazione economica paragonabile certo, a quella di Feltrinelli. Però anche lui aveva aderito al movimento comunista da ragazzo, ma adolescente, 14-15, quindi abbastanza giovane, tra i 14 e i 15 anni. E il tema di questo passaggio, no, dalla borghesia all'altra parte era molto importante, e Pincus si riferiva spesso all'esperienza di Feltrinelli come altro esempio di questo tradimento della classe. Jetzt noch ganz zum Schluss noch ein letztes. Also Theo Pincus, so wie ich ihn kennengelernt habe, dann auch später hier in Saličina, er war eigentlich gegen den bewaffneten Kampf. Das war nicht sein Konzept. Er hat immer gesagt, ich will keine Berufsrevolutionäre sehen, ich will Revolutionäre im Beruf sehen. Also für ihn war wichtiger die Subversion, quasi das in die Institutionen reingehen und da versuchen eine Veränderung zu machen und nicht der bewaffnete Kampf. Aber trotzdem, also vor allem Amalie hatte sehr viel mehr Sympathien, vor allem eben auch aus ihr. Sie hat auch viele Partisanen kennengelernt während des Krieges, die bei ihnen Zuflucht gefunden haben. Amalie war offener, aber es gab sehr viele Genossen, von denen die Namen, also Petra Krause zum Beispiel, die auch in der Studienbibliothek gearbeitet hat. Wir haben nicht gewusst, wer Petra Krause ist. Sie hatte einen Decknamen. Theo hat das gewusst. Er hat sich nicht distanziert, aber er war nicht, er hat das abgelehnt eigentlich. Ich war auch eher auf der militanteren Seite und er hat mir immer gesagt, das bringt nichts. Also er hatte eine, aus seiner politischen Überzeugung war er gegen den bewaffneten Kampf. Ja, ich spare noch nicht alles. Ja, so. Allora, nonostante questa apprezzasse Feltrinelli, Theo Pincus era, e lo diceva anche spesso nel seminario a Salecina, era contrario alla lotta armata. Quindi, da quel punto di vista la sua posizione era diversa e diceva che spesso che non voleva dei rivoluzionari di professione, ma dei rivoluzionari nelle professioni. Cioè la sua idea era più di un movimento diffuso nella società, di cambiamento anche radicale, ma non basato sulla lotta armata. Più aperta era sua moglie Amalia, che aveva avuto anche molti contatti con i partigiani italiani, che avevano anche ospitato in casa, era un po' più aperta. E comunque anche la biblioteca di Pincus, nella biblioteca di Pincus sono passate anche persone legate alla lotta armata, tra cui Petra Krause. Gut, Fragen? Mehr kann ich nicht dazu sagen, das alles andere ist Spekulation. Domande? In più non può raccontare perché il resto sarebbero speculazioni, quindi avendo solo Sachs, ma che ne frage ci viene. Vabbè, die Absicht. Welche Position hat er in diesem ersten Heft zum Tod von Feltrinelli Theo bezogen? Chiede che posizione esprimeva Pincus in questo articolo sulla morte di Feltrinelli. Also für Pincus war ganz klar, dass er umgebracht worden ist. Er schreibt auch, dass es vorher schon Anschläge gegen ihn gab. Offenbar, ich weiß es nicht im Detail, aber ich habe es vorher kurz überflogen. Feltrinelli ist vorher schon sehr stark attackiert worden. Also glaube ich auch physisch. Und er fand, das für ihn war ganz klar, dass er von Agenten der Faschisten umgebracht wurden. Vielleicht hat sich das später, aber da in den ersten Artikeln war es für ihn ganz klar, er ist ermordet worden. Allora, la posizione del primo articolo di Theo è chiaramente quella Feltrinelli è stato ammazzato perché era già stato vittima di altri tentativi o comunque di aggressione, quindi per Pincus era chiaro, ora ce l'hanno fatta, l'hanno ammazzato. Può darsi che dopo abbia rivisto la sua posizione. Wenn sich jemand interessiert, ich muss sagen, ich habe diese, und Jürg Frischknecht ist vor 4 Jahren gestorben, er ist wirklich akribisch dieser ganzen Feltrinelli-Geschichte nachgegangen, hat alles gesammelt. Ich habe jetzt das von seiner Partnerin übernommen, ich habe noch den Film produziert, für mich ist die Geschichte abgeschlossen, aber wenn es junge Leute gibt, die das wirklich recherchieren wollen, also die Unterlagen sind da. Alle die Gespräche, die wir hatten mit Leuten, mit der Monique Klingler, die beim Kauf des Hauses dabei war, die aber dann nachher in die USA gezogen ist. Also das ist alles hier, es ist alles dokumentiert im Stil von Frischknecht. Aber wie gesagt, für mich hat das keine... Ich lasse es im Archiv hier in Salecina, aber für mich ist die Geschichte abgeschlossen. Lui ha prodotto il film su Feltrinelli, per lui quella ricerca lì è chiusa, però ha portato il materiale che aveva raccolto Jürg Frischknecht, che era il giornalista appunto che abbiamo citato già prima, che ha fatto delle ricerche molto approfondite sulla questione, e ora questo materiale sarà qui disponibile in archivio. Se qualcuno vuole approfondire questo tema può copiare. O... Den Jack suchen wir noch, da sind wir. Das ist verrückt, wir finden diesen Scheck. In der Ausstellung war, wir finden ihn nicht mehr im Moment. Und wir haben im Nachlass gesucht. Ich habe jetzt die Leute aufgefunden, die diese Ausstellung gemacht haben. Eine Person ist leider schon gestorben. Aber das will ich noch, ich will diesen Scheck noch finden. Doch, das will ich noch machen. Allora, un documento. Questo è solo un appunto finale, l'assegno che era stato messo nell'esposizione zurighese non si trova più, l'hanno cercato nei materiali tornati dalla mostra non si trova più, quindi anche riscuoterlo non penso sia più possibile, se mai se è fantasma adesso, ma non, sì, è un po' peccato, però quindi Swiss dice che non vuole più, che la questione è chiusa, però quella dell'assegno ancora ce l'avrei Carlo. Ich möchte noch eine Ergänzung machen. Ich glaube, Theo, wieso man nach dem Tod von Feltrinelli nicht mehr darüber gesprochen hat, das war tabu, die ganze Finanzierungsgeschichte. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Salecina sehr stark vom Staatsschutz observiert wurde. Alle Leute, die hier waren, wurden registriert, die Autonummern wurden aufgeschrieben und so weiter. Und es wäre gefährlich gewesen, wenn man sich gerühmt hätte mit dem Namen Feltrinelli. So hat man versucht, möglichst den Namen Feltrinelli nicht zu verwenden. Allora, das war zu heikel, für Theo glaube ich zu heikel. Negli anni dopo l'apertura di Salecina, dopo la morte di Feltrinelli, in realtà poi il nome di Feltrinelli non veniva nominato spesso a Salecina, anche perché Salecina fin dall'inizio era sorvegliata dalla polizia federale, sì. E quindi non era il caso di suggerire dei legami che potevano essere, quindi il nome di Feltrinelli non era molto presente almeno nei dibattiti, insomma, non, magari poi tra persone singole sì. Sì. Next. Grazie. Prego, siamo in due, perché se dopo c'è il dialogo con Moreste bisogna essere in due a tradurre, se no non diventa niente. Come ci mettiamo? È uguale, no, per me è uguale. A te non piace stare lì? No, è più che altro, non so se mi sentono in tutti gli angoli da qui. No, si sente la bella voce. Grazie, sei il primo che me lo dice. Cecco Bellosi è stato molto vicino a Feltrinelli negli anni proprio della lotta armata, e come primo incontro credo sia stato proprio quello del trasbordo, cioè tu aspettavi dall'altra parte in pratica, La sua introduzione, sì. Forse la traduci tu. Allora, adesso ero un po' distratta. Cecco Bellosi ha incontrato Feltrinelli la prima volta quando lo ha aiutato a attraversare il confine per venire in Svizzera dall'Italia. Nel 1970, il primo gennaio. Cecco Bellosi tra Feltrinelli da Sesto Mal verso in februar 1970 als er ihm half in die Schweiz zu kommen. Allora, due premesse. La prima è su un discorso su delle domande che ho sentito prima sulla questione femminismo in quegli anni. Ecco, io credo che il femminismo in quegli anni in Italia non c'era ancora. Non c'era ancora se non in piccoli nuclei, tipo il salario al lavoro domestico, che era collegato al potere operaio di questo gruppo di donne, compagne che stavano a Padova, Alice del Re, Maria Rosa dalla Tosta e così via. Al punto che quando nel 1971, non so se tu chissi c'eri, al congresso di potere operaio a Roma, c'era tutto la dirigenza di potere operaio schierata sul palco, e vi era stata invitata Betty Friedan, che era la leader, una delle leader femministe americane. Il primo rilievo di Betty Friedan è stato: vedo che qui siete tutti uomini, non va bene. Posso, e da lì, se no non riusciamo a dire. Sì, scusa, sì, sì. Scusa. Scusa, ditemi voi se... Sì, cerca di fare frasi abbastanza brevi, sì, perché più bene. Fai quelle relative bene. Diventa... Comincia tu, se mai okay. Non sei... Sì, mi aiuterai. Sì, certo. Ok. Vorher sprach man, oder es gab es Fragen zum Feminismus oder zu der feministischen Frage zu Feltrinelli. Er ist der Meinung, dass damals in dieser Zeit der Feminismus in Italien nur sehr begrenzt existierte. Und zum Beispiel für die das Salario alle Lavoro domestico, zum Beispiel für Haushalts non è che Lohn für Haushaltslohn, Haushalt war ein Thema zum Beispiel zu erschaffen. Und am Kongress in Roma 1971 in 1971 am Potere Operaio gab es auf der Tribüne, die Sprecher waren es alles Männer, und es war die amerikanische Feministin Betty Friedan war eingeladen, und sie hat gesagt: Ich sehe, ihr seid nur Männer, das ist nicht gut. Das kommt nicht. Vabbè, torniamo al primo gennaio del 70. Feltrinelli era non formalmente, ma sostanzialmente ricercato dalla polizia italiana perché voleva sapere da lui alcune cose relative alla strage di Piazza Fontana, che era avvenuta 20 giorni prima. Am 1. Februar 70, um zurückzukommen, als er Feltrinelli das erste Mal sah, war Feltrinelli von der italienischen Polizei gesucht, weil sie ihn zu der Strage in Piazza Fontana, das 20 Tage vorher geschah, anhören wollten. Feltrinelli era già nel mirino della polizia italiana dentro la costruzione di una grande provocazione da almeno aprile del 1969, quando insieme a due coniugi anarchici, suoi amici, era stato coinvolto nelle indagini appunto su questa bomba che era stata messa alla Fiera Campionaria a Milano. Feltrinelli war schon von der Polizei gesucht, oder seit dem 69, als er mit einem anarchischen Paar no, aspetta, mi sono persa. Lui era ricercato dalla polizia del 69 perché... No, era ricercato, era stato interrogato e sospettato in merito a questi attentati, insieme a questa coppia di anarchica. War nicht gesucht, sondern war schon angehört worden, zusammen mit diesem anarchischen Paar. Per questa bomba alla Fiera Campionaria a Milano. Für die Bombe, die in der Fiera Campionaria a Milano gelegt worden war. Tutte le bombe seminate nel 1969 in Italia, poi la più eclatante è stata quella di Piazza Fontana, erano state messe invece dai fascisti in sinergia, in rapporto, in sintonia con alcuni servizi dello Stato che poi sono stati definiti deviati, ma che invece erano i servizi segreti dello Stato italiano. Mi aiuti sulla parola deviati? Lascia perdere. Perché dice che tanto non è. Also all diese Bomben in 69 waren von denen die in Piazza Fontana die wichtigste, die größte war, waren von faschistischen Gruppen gelegt worden mit der Beihilfe oder mit dem Wissen von den Servizis, Geheimdiensten des Staates. Quindi Feltrinelli al centro di una grande provocazione nei suoi confronti. Feltrinelli ist in mitten einer großen Provokation gegenüber. Ed è per questo che lui aveva questa quasi ossessione, ma in realtà era una legittima preoccupazione verso un colpo di Stato in Italia, perché era lì da vedere che stava accadendo questo. Und deswegen war er so fixiert mit einem Staatsstreich in Italien, weil er das Gefühl hatte, weil er das war seine logische Schlussfolgerung. Questa cosa è talmente vera che un fascista coinvolto nella strage di Piazza della Loggia, l'unica strage che ha avuto dei colpevoli, strage della Piazza della Loggia a Brescia nel 1974, ha detto che all'epoca c'era l'idea da parte dei fascisti, sempre in, come dire, sintonia con alcuni servizi segreti, di uccidere Gian Giacomo Feltrinelli in Carinzia, dove aveva una tenuta, o successivamente nel castello di Villa Beati, quello di cui si parlava all'inizio, e facendo trovare nel castello i timer serviti e usati dai fascisti per la bomba di Piazza Fontana. Diese Geschichte ist so wahr, dass la strage di Brescia del 1974, Piazza della Loggia, ein Faschist zu der strage della Loggia in 74 gehörte, das ist die einzige für die Schuldige gefunden wurden, gesagt hat, dass die Faschisten zusammen mit dem Geheimdienst Feltrinelli umbringen wollten und alle Timer, die gebraucht wurden, für die Attentate auszuführen, bei ihm gefunden wurden, zusammen mit dem Körper. Secondo me quando spieghi tipo Piazza della Loggia, noi sappiamo, basta dirlo, sì, ma sì. Il contesto, sì. Quante persone muoiono, perché altrimenti esatto, sì, tutte le bombe sì, sono sì. uguali. No, no, allora, in Piazza Fontana erano morte 18 persone, in Piazza della Loggia erano morte una decina di persone durante una manifestazione sindacale. Era quella che in Italia si chiamava strategia della tensione. In Piazza Fontana waren 18 Leute umgekommen, in Piazza della Loggia, in Strage della Loggia waren 10 Leute umgekommen während einer Gewerkschaftsdemonstration. Und das waren symbolische Muster. Also das war ein Teil der sogenannten Strategie della Tensione, Strategie der Spannung, eigentlich werde ich. Che era una strategia dei servizi segreti dello Stato italiano, quindi era una strategia dello Stato italiano. Es war eine Strategie des Geheimdienstes, also vom des Staates. Darf ich eine Verständnisfrage? Also die Bomben wurden während einer Gewerkschaftsdemonstration gelegt. War das denn, also war die Gewerkschaft dann von der, also quando si associa con i comunisti in partei e deswegen konnte es in die Schuhe geschoben werden von den Autonomen und von den Operaisten oder wie ging das dann überhaupt, dass man sagen konnte, das waren Linke? La domanda è, visto che la bomba è stata messa durante Piazza della Loggia. Sì, Piazza della Loggia è stata messa durante una manifestazione sindacale. Come si può come hanno fatto a far attribuire la bomba alla sinistra, no, mentre comunque era una manifestazione sindacale? Sì. No, giusto, forse non mi sono spiegato bene. La bomba attribuita alla sinistra all'inizio agli anarchici è stata quella di Piazza Fontana. Quella di Piazza della Loggia non è mai stata attribuita alla sinistra. Okay. Mm. Bombe, però faceva parte della stessa strategia. Die Bombe, die der Linke zugewiesen oder nachgesagt wurde, war die in Piazza Fontana. Die in Piazza della Loggia war nie. Aber es war Teil der Sentenstrategie. Allora, per questo motivo, negli ultimi giorni di dicembre del 1969, Feltrinelli aveva l'urgenza di fuggire in una qualche misura dall'Italia per tutelarsi. Deswegen, aus dieser Dynamik hatte Feltrinelli Ende 69 den Instinkt oder das Bedürfnis, aus Italien rauszukommen, um sich irgendwo in Sicherheit zu wissen. E doveva farlo clandestinamente. Per questo motivo si era rivolto a Potere Operaio. Und das musste im Untergrund geschehen, deswegen hat sich an Potere Operaio gewendet. Feltrinelli, come si è visto, aveva rapporti sia con Lotta Continua che con le nascenti Brigate Rosse, che non c'erano ancora, erano ancora il collettivo politico metropolitano, ma in particolare aveva un rapporto, aveva costruito un solido rapporto con Potere Operaio, pur essendo un gruppo operaista e quindi non proprio in sintonia con lui dal punto di vista della visione politica. Feltrinelli hatte Beziehungen zu Lotta Continua, zu den Roten Brigaden, die am Entstehen waren, und zu Potere Operaio, obwohl das eigentlich eine Arbeiterbewegung war und deswegen nicht ganz flächengleich mit seiner. Il termine operaista non è parte del movimento operaio, ma also sie waren, Potere Operaio war aus dem Operaismus entstanden und diese Positionen, also Feltrinelli hatte eine andere politische Position. Feltrinelli era un comunista, diciamo così, internazionalista, legato più alla visione delle rivoluzioni nel terzo mondo. Gli operaisti erano più legati a una visione del di rivoluzioni operaie nel primo mondo. In altre Übersetzung und dann die Frage. Feltrinelli hatte eine internationale Vision des Kommunismus und er war eher konzentriert auf die Revolutionen in der dritten Welt. Hingegen Operaismus war eher auf die Revolution in der ersten Welt, tra virgolette, in Anführungszeichen, diese Begriffe konzentriert. Die Frage? Wenn ich recht erinnere, das ist keine Enttäuschung, hat Lotta Continua sich schon eher abgegrenzt von der Brigade Rosse. Se si ricorda bene, Lotta Continua si è distanziato dalle Brigate Rosse. Sì, erano posizioni diverse. Sì, no, erano posizioni diverse, ma Feltrinelli aveva l'idea che essendoci il pericolo di un golpe, tutte le forze, tra virgolette, rivoluzionarie dovevano trovarsi in una qualche misura, dovevano trovare una qualche forma di lavoro comune. Questa era la sua idea. Ja, sie hatten unterschiedliche Ansichten, aber Feltrinelli in angesichts einer möglichen Golpe oder einem möglichen Staatsstreich war er der Meinung, dass sich alle revolutionäre Kräfte vereinen müssten hinter einer gemeinsamen Idee. In quei giorni lui era ospitato in Liguria e in quel momento, mi pare proprio Oreste, poi dopo glielo chiediamo, gli suggerisce un nome di battaglia, guardano, c'era una macelleria, mi pare, comunque un negozio lì di fronte con il nome Osvaldo, e da lì viene il nome di battaglia Osvaldo. Mi aiuti con la parola nome di battaglia? Kampfname. Okay. In diesen Tagen war Feltrinelli in Ligurien. Und wahrscheinlich hat Oreste ihm, also er hat ihm gesagt, man muss einen Kampfnamen haben. Sie haben eine Metzgerei gesehen, auf der Osvaldo stand, und deswegen war sein Kampfname dann Osvaldo. Osvaldo. Io vengo allertato perché abitavo, ancora adesso sono tornato ad abitare sul lago di Como, e quindi il lago di Como confina tuttora con la Svizzera, e quindi conoscevo i sentieri e i passaggi per entrare in Svizzera senza passare dalla dogana. Er wurde kontaktiert, weil er damals wie heute wieder auf dem Comersee wohnte. Comersee ist ja an der Grenze zur Schweiz, und er kannte die Wege, um ungesehen in die Schweiz zu gelangen, ohne durch die Grenzposten zu gehen. Posso farti una domanda? Sì. Questa attività di passaggio della frontiera poi dopo è proseguita, sì, anche con trasporto di armi, delle vice trasmittenti anche. Sì, quello è stato quello più grosso, più impegnativo, credo. Bisogna tradurre la domanda. Dopo arriviamo alle vice trasmittenti. Le ricce trasmittenti, come si dice? Pierre fragte, ob dieser Weg dann weiterhin genutzt wurde, auch für Waffen und Radio und Material, und er sagt ja. Und jetzt komme ich aus. Io non sapevo che fosse Feltrinelli. Quando questi compagni me lo hanno accompagnato fuori Como, insomma, all'inizio del lago, e siamo passati da un confine di una valle, perché dato che era nevicato molto, torno indietro, in quei giorni era nevicato molto. E quindi avevo chiesto aiuto a un mio amico contrabbandiere che sapeva anche dove passare in caso di neve alta. Faccio. Sì. In diesen Tagen hatte, also als er dann Feltrinelli traf, wusste er nicht, dass er Feltrinelli traf. In diesen Tagen hat es sehr stark geschneit, und er hat einen Freund gebeten, der Schmuggler war, und der wusste, wo man am besten durchgeht, auch wenn es stark geschneit hat. Lui era arrivato accompagnato da Oreste Scalzone e da Toni Negri. Er kam zusammen mit Oreste Scalzone und Toni Negri. Toni Negri. siamo passati da un valico della Val di Intervi che si chiama Valmara, che porta, diciamo così, dalla Val di Intervi d'Italia al Ticino, attraverso una strada abbastanza impervia. Siamo passati ovviamente a piedi a lato della dogana. Wir sind über die Val d'Intelvi, die ins Tessin bringt. Vielleicht dico un attimo, non so. Anche se non so esattamente dove. Aspetta. Wenn man dem Tessin entlang hochgeht, ist es, kennt ihr Maroggia, Merano, Mendrisio, Lugano? Es ist zwischen Lugano und Mendrisio in der Mitte und dann auf der, wenn man von unten, also wenn man gegen Norden schaut, auf der rechten Seite. Dort sind sie über die Grenze gekommen. Es ist ein ziemlich steiles Tal. Arrivati a Valmara, siamo entrati a avere qualcosa per riscaldarci, però questo compagno che io non avevo minimamente riconosciuto, nonostante lo avessi visto in fotografia o in manifestazioni, cioè così via, mi chiede però di essere subito accompagnato alla stazione di Mendrisio, perché Toni e Oreste tardavano ad arrivare, che avevano fatto il giro con la macchina da Como, passando dalla Rubera. Als sie in Valmara waren, haben sie sich ein bisschen aufgewärmt und etwas getrunken. Er hatte Feltrinelli überhaupt nicht erkannt, obwohl er ihn schon auf Fotos oder auf Demos gesehen hatte. Aber er war sehr ungeduldig, weiterzugehen, weil Oreste und Toni auf den anderen Weg mit dem Auto gemacht hatten und in Mendrisio fahren sollten. E allora lui mi ha salutato e mi ha detto ci rivediamo presto. Perché aveva un treno, arrivava un treno lì a poco, mi ha abbracciato e mi ha detto ci vediamo presto. Er hat sich dann verabschiedet und gesagt, wir sehen uns bald. Er hatte einen Zug, der ging. Ecco, poi sono tornato in Valmara, perché ovviamente nel frattempo Toni è... che non avevamo incrociato lungo il tragitto, Toni e Oreste erano risaliti fino alla Valmara, e quando li ho trovati, li ho visto prima preoccupati perché non ci vedevano, e poi quando gli ho detto che l'avevamo già portato a Mendrisio, sono esplosi talmente di gioia che hanno cominciato a tirarmi palle di neve, e dicevo, ma questi qui sono fuori. E mi ha detto, ma non sai chi hai portato di là? Dico, no, non l'hai riconosciuto, no, che era Feltrinelli. Als Toni und Oreste zurückkamen, sie waren ein bisschen besorgt, weil sie nicht gesehen haben, weil sie sie nicht getroffen haben. Und als er ihnen dann gesagt hat, dass er schon nach Mendrisio ist mit dem Zug, waren sie sehr erleichtert und haben angefangen, in Schneebälle anzuwerfen. E poi l'ho rivisto alcuni mesi dopo a Milano, in cui la prima richiesta era stata quella di portare delle radio ricetrasmittenti tedesche dalla Svizzera in Italia. Quindi proprio parliamo dei primi mesi degli anni del 1970. Parliamo dei primi mesi del 1970, qualche mese dopo, vado a memoria, primavera del 1970, sì. Però non ricordo, erano 12 radio. Im Frühling 1970, ich habe vorher noch vergessen zu sagen, als sie so erleichtert waren, Orazio, Oreste und Toni waren, haben sie ihm gesagt, weißt du denn nicht, wer du über die Grenze gebracht hast? Und er hat gesagt, nein, keine Ahnung. Und dann haben sie gesagt, Feltrinelli. Und dann, er hat ihn dann wieder getroffen, ein paar Monate später, als er von der Schweiz nach Italien 12 Radioempfänger, transportieren sollte. Deutsche Funkgeräte. Erano le radio che sarebbero servite per Radio Gatto. Das waren die Radios, die für Radio Gap. Radio Gap funzionava così, cioè interveniva sul telegiornale, allora c'era forse ancora un telegiornale unico, sul telegiornale della sera, e partiva l'internazionale, comunque una canzone, dopodiché interveniva una voce che diceva qui Radio Gap diffondeva i comunicati, le questioni. Telegiornale, non radiogiornale. Cioè il no, allora con la radio e attraverso un sistema di antenne montato su una macchina che girava, praticamente si riusciva a entrare nel telegiornale. Okay. Ovviamente in una zona limitata, cioè ad esempio a Genova, dove erano molto bravi perché avevano dei tecnici molto bravi, riuscivano a coprire tutta la città, a Trento anche, a Milano infatti non se ne parla, c'è stato un tentativo anche a Milano, di cui poi racconto. Faccio un attimo la traduzione. Radio Gap funktioniert so, mit einer Antenne konnten sie in die Fernsehnachrichten, die damals ein einziger Kanal, auf einem einzigen Kanal war, einwirken, und dann wurde die Internationale abgespielt, und dann kam eine Stimme und sagte, das ist Radio Gap. Dicevano altro. Come? Dicevano Radio Gap, diffondevano il comunicato. Und haben verschiedene Mitteilungen so verbreitet. In Genua, wo sie sehr gut darin waren, konnten sie die ganze Stadt abdecken. In Mailand nur gewisse Gebiete. Quale altra città era? Genova e Trento, e poi c'è stato anche un tentativo a Milano, però è stato sentito solo in pochissimi condomini della zona di Porta Romana. In Trento hat es auch verschiedene, also ziemlich gut funktioniert, in Mailand weniger, das war wirklich sehr begrenzt. Ecco, su questo punto voglio dire due cose. Una è un aneddoto un po' buffo, e l'altro invece è una considerazione seria. L'aneddoto un po' buffo è questo, che quando abbiamo registrato la trasmissione per Milano, l'annunciatrice, la telecronista, diciamo così, era una nostra compagna, lui mi aveva detto, occorre un disco, cioè per registrare la canzone, no? Cioè, e così via. E quindi mi dice, puoi andarlo a prendere in una libreria Feltrinelli, no? Che aveva. E allora poi quando ci siamo trovati, dice, ah sì, il disco sì, l'ho preso in via Manzoni, ma l'hai comprato? No, l'ho rubato. E lui mi ha detto, maledetto, no? Aspetta, prima del primo aneddoto. Sì. Und zudem eine Anekdote, als sie die Aufnahmen für Mailand machen wollten, mussten sie das Ganze auf eine Platte aufnehmen, und sie haben gesagt, ja, du kannst die Platte kaufen in einer Feltrinelli-Buchhandlung, und er ging und dann haben sie gesagt, hast du es gekauft? Und dann hat er gesagt, nein, ich hab's gestohlen. Cancella. La considerazione seria invece è questa. Queste trasmissioni avvenivano nel 1971, 6 anni prima delle radio libere e 10 anni prima delle televisioni private, non c'è commerciali. Io credo che lui, come al solito, aveva in un periodo in cui gli strumenti di comunicazione erano i volantini. Lui, come sempre, aveva visto molto prima dove si andava. E quindi la mia domanda è sempre stata poi, dove sarebbe arrivato prima anche su questo? Man jetzt noch ein ernsteres Detail zu dieser Sache. Feltrinelli hat das organisiert 6 anni prima delle Radio Libere. Sì, e 5-6 anni. Also im 71, 6 Jahre vor den freien Radiostationen, come che vorresti, Radio Libere. Freie Radiosender und 10 Jahre vor dem Privatfernsehen. Also er hat schon damals Weitsicht bewiesen und er fragt sich, was hätte er alles noch gesehen. Quanto lui riteneva importante la comunicazione. In einer Zeit, wo alles nur auf Papier, Volantini, Flyers che verteilt wurde. E penso che sulla comunicazione si è giocato poi la sconfitta della lotta armata, credo. Sì. Soprattutto anche sul piano della comunicazione. Anche su altro. Sconfitta del Niedergang, no? Un po' forte Niedergang. Der Niedergang des bewaffneten Kampfes ist auch wegen der Kommunikation geschehen. Also wegen der schlechten Kommunikation. Der Nicht-Kommunikation. Ja, proseguiamo così, c'è qualcosa da dire. Cioè, sulla tua racconta, tanto adesso si entra nei punti, quando vedo qualcosa su cui intervenire, facciamo così. Sì, sì, sì, perché tanto qui è rimasto poco, non è rimasto molto. Dai. Ma non volevi collegarti con... E vorrei essere lui che deve collegarsi, noi ci siamo. Proviamo a chiamarlo. Puoi chiamarlo, non vedi se è online. Io nel 71 abitando a Genova ho sentito quella famosa trasmissione di cui tu citi, Radio Gatto, che aveva fatto grande scalpore perché ovviamente era la prima volta che qualcuno si intrufolava nella RAI, nel servizio televisivo, e mandava un messaggio così eclatante. La banda 12 ottobre... 22. In 71 wohnte er in Genua und er hat es gehört, diese Sendung von Radio Gap, die damals sehr, alle sehr beeindruckte, weil es war das erste Mal, dass jemand in den Fernseher so einschlich. Das war nur eine Tonspur, oder? Das war nur Ton, ja. Ja. Aber später, also ich komme ja auch aus der Videobewegung und da muss ich sagen, das ist auch eine Verbindung. Von Theo Pinkus zu Petrinelli. Pinkus war auch ein Propagandist und er hat ganz früh die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation und wir haben ganz früh Seminare gemacht, inspiriert von den Italienern, die zum Beispiel im großen Wohnblock haben die Videosignale eingespielt von eigenen Filmen Und das war immer unser großes Vorbild, aber auch Radios, die Schwarze Katze zum Beispiel, wir haben immer quasi auch gesendet auf die, am Walensee, wo der Stau war mit den Autos am Sonntag, hat man immer mit den Piraten senden. Und die mussten dann alle diese Polizeisendungen hören auf DRS1. Also das hat uns sehr inspiriert, da waren die Italiener absolut die Avantgarde. Aber wir haben dann auch gerade in Cina Radiobewegung. La banda che è chiamata così dai mezzi di informazione che aveva fatto l'azione, vedi, erano i GAP, i gruppi di azione partigiana, che però può, che settimane dopo, qualche mese, adesso non ricordo che sono passati tanti anni, in una rapina per autofinanziamento uccisero un portavalori. E questo segnò uno spartiacque tra quello che poteva essere la credibilità che questo movimento comunque aveva acquisito facendo questo tipo di azione rispetto all'opinione pubblica poi della città, perché come lui diceva questa trasmissione si era sentita soprattutto in città e neanche in tutta la città, in alcune zone di Genova, e questo fa riflettere sul tipo di rapporto che c'è sempre stato tra chi si poneva come avanguardia rispetto poi al movimento operaio che nelle fabbriche allora comunque era forte anche in porto e che aveva difficoltà, a mio avviso, col senno anche di ciò che è successo dopo, a capire perché questi facessero delle azioni di questo tipo in cui comunque aveva perso la vita uno che tutto sommato niente ne poteva. Grazie. Adesso, un bella storia. Scartan uno spartiacque, aiutami. Vende punto. Cosa la prima? als diese Gruppe dann zur Autofinanzierung haben sie einen Überfall gemacht auf ein Portavalori, auf diese Geldtransporte. Und sie haben jemanden umgebracht. Und das hat dann so eine Spaltung gegeben, weil einerseits hatten diese Mitteilungen nicht alle mitgehört, also nur ein Teil, vor allem die städtische Bevölkerung und auch nicht alle. Und dann war das Verständnis hat sich sehr geteilt zwischen denen, die verstanden haben, um was es ging, und denen, die nicht verstanden, warum jetzt jemand umgebracht worden war. Das ist jetzt ein bisschen verändert. Foreste c'è? No, per il momento non è il secondo ancora. C'è una domanda. Eine Frage nur, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie die GAP, was das etwa für eine Gruppe war, die Leute da hingekommen sind, also welche Leute sich da angeschlossen haben, von wie vielen Militanten muss ich da etwa ausgehen, sind das eher 15 oder sind das eher 200 oder so, das ist vielleicht... Non sa, cioè vorrebbe qualche spiegazione sui GAP, cioè forza, posizioni politiche... Allora, i GAP si chiamavano gruppi di azione partigiana che mutuavano dalla resistenza il termine che era gruppi di azione patriottica. Per questo, ad esempio, una delle pubblicazioni più importanti che tutti avevamo divorato della Feltrinelli era stato il libro citato prima, Senza tregua, la guerra dei GAP, che si riferiva alla guerra partigiana. Fin qui va tradotto questo? Tradotto, sì. Also però il mutamento dal gruppo Azione... Der Name GAP, die Abkürzung, wurde schon während der Resistenza gebraucht für die Gruppe di Azione Patriottica, also die patriottische Aktionsgruppe. Die Zentrinelli hat diese Abkürzung übernommen, aber mit anstatt patriotisch, also anstatt Patriota, Partigiani, also die Partisanen-Aktionsgruppen. Era l'organizzazione di Gian Giacomo Feltrinelli, di GAP. Quella di Genova, scusate l'inciso, è vero quello che ha detto il compagno prima rispetto a quella rapina, ma è anche vero che in quella rapina non volevano uccidere quella persona. È stato proprio un incidente, una fatalità, lui si è aggrappato e poi dopo, tant'è vero che il sequestro Sossi è avvenuto proprio sulla montatura di quel processo. Diventa un po' complicato. Sì, però, però questo era semplicemente una, sarebbe stato un dialogo con diciamo il compagno di prima. Che non era voluto, forse la esatto, cosa di Sossi, se no apriamo il tema Sossi. E poi magari diciamo sì, anche sì. Quanti, più o meno quanti sì, erano. Allora, die GAP waren die Gruppe von Giacomo Feltrinelli und dass sie in Genua jemand, dass jemand gestorben ist, war eigentlich nicht Absicht, das war ein Zufall. Das ist ein Zufall. Zufall. Ma quanti GAP c'erano? Allora i GAP erano a Genova, che però erano collegati ma autonomi. Sì. Erano a Trento, però io quelli di Trento non li ho mai conosciuti, ed erano a Milano e quelli che io ho conosciuto, anche perché a un certo punto a me è stato chiesto di entrare, a me ha detto i compagni, nei GAP erano una quindicina. Una quindicina a Milano, sì. E gli altri? Con tre o quattro bar. A Genova lo sappiamo perché poi sono stati quasi tutti arrestati e venivano quasi tutti dal Partito Comunista, sì. Erano tutti operai, mi pare fossero una ventina più o meno. Es gab die GAP in Genua, die waren etwa 20, aber die waren autonom, aber erano autonomi però collegati, cioè, sì, erano i GAP di Genova, ma non facevano direttamente capo a lui, cioè non erano sotto. Sie waren nicht direkt unter Feltrinelli, aber sie waren autonom, aber sie gehörten zu den. Prima mi chiedevano, ho dimenticato, scusa. Sì, und dann gab es die GAP in Trento und in Mailand waren sie ungefähr 15. Ho dimenticato di tradurre, hai citato il libro che era stato edito, cioè quella serie Senza tregua, La guerra dei GAP. Ah, also Feltrinelli hatte dieses Buch herausgegeben ohne, come tregua? Rast. Oh. Rastlos. No. Sì, ma tregua è un termine sì. Militare. Ohne Rast. Ohne Rast, die Geschichte der GAP, also hatte die Geschichte der GAP aus dem Zweiten Weltkrieg hat er herausgegeben. Das, dieses Buch war also die Verbindung zwischen den zwei. Che punto siamo? Ma io direi se lui fa scorrere quando io vedo qualcosa intervieni sul suo discorso. Così vediamo. Quindi sì, quello che è il suo tradotto. Sì. E dopo di una tradurre te, allora devi passare di più. Ah, okay. E tu cosa fai? No, però rimanendo. Allora faccio sapere. Sì, poi tu fai scorrere le sue. Ah, bisogna fare scorrere. Dipende. Sì, quello. Al teleprompter. Sulla comunicazione Feltrinelli potrebbe essere ancora un po'. Ich habe noch eine andere Frage, eine Anschlussfrage dazu. Also, was waren denn die Aktivitäten von diesen GAP-Strukturen in diesen drei Städten? Chiede quali erano le attività oltre a queste interferenze delle strutture GAP? Le strutture GAP si erano dedicate soprattutto agli infortuni sul lavoro, un tema molto attuale in Italia in questo momento, e quindi facevano dei piccoli attentati, per dire distruggendo ruspe o distruggendo come si chiama, comunque macchinari, e all'interno dei cantieri edili dove c'erano stati dei morti sul lavoro. infatti una delle... Vado per la traduzione. Sie haben sich vor allem dem Thema der Unfälle an der Arbeit gewidmet, was in jetzt aktuell in Italien immer noch sehr präsent ist, also aktuell ist. Und sie machten kleine Attentate in Baustellen, wo es Tote oder wo es Unfälle gab. Zum Beispiel indem dass sie ein Bagger sprengten oder andere Maschinen. Poi più avanti ci sarebbero stati degli obiettivi più ambiziosi, ma ne parliamo dopo. Aspetta, da questo essere obiettivi. Domande. Also, die GAP war ja rundherum oder sogar vor dem Selbstmord gegründet worden. Und wir haben jetzt aber schon einige Male gehört, dass Feltrinellis Fokus vom bewaffneten Kampf sich eigentlich eher an so der Guerilla a la in Kuba wie Che Guevara orientiert hat und es ja auch ein bisschen Diskrepanz gab zwischen seiner Ideologie oder Vorstellung von Widerstand und beispielsweise dem Widerstandsverständnis von Lotta Continua. Die eben, und wir haben gesagt, der Unterschied ist ein bisschen Lotta Continua, weil er städtisch, weil er auf die erste Welt fokussiert und Feltrinelli eher auf die dritte Welt. Aber wie geht das jetzt zusammen mit dem, was wir jetzt gerade über die GAP-Gruppe gelernt haben? Chiede come si riesce a collegare l'impegno di Feltrinelli, che era più internazionale, più orientato al terzo mondo, alla rivoluzione del terzo mondo, con le attività GAP che erano molto locali. Sì, perché comunque lui era dell'idea, cioè che in ogni paese ci dovessero essere dei fuochi di guerriglia, e quindi anche in Italia. E quindi i GAP erano, da suo punto di vista, appunto i primi fuochi di guerriglia in Italia. Er war der Meinung, dass in jedem Land den Guerillakampf in Fakt werden sollte, und also auch in Italien, und die GAP waren so die Zünder dieser italienischen Guerilla. Wie war denn das Verhältnis von diesen Strukturen zur kommunistischen Partei? Com'era il rapporto tra GAP e il Partito Comunista? Allora, io credo che è una sensazione, perché non lo so, sicuramente c'era un rapporto molto forte, personale, ma perché una volta io ho conosciuto Pietro Secchia, tra Gian Giacomo Feltrinelli e Pietro Secchia. Pietro Secchia era stato, il candidato alternativo a Togliatti alla guida del Partito Comunista Italiano, ed era un rivoluzionario. Er hat das Gefühl, dass, das ist seine persönliche Meinung, dass der Kontakt sehr stark war, weil Feltrinelli war mit Pietro Seppia in Kontakt, und Pietro Seppia war ein Alternativkandidat zu Togliatti. Was ein linker. Er hatte eine rivoluzionäre Position. Sì, sì. Pietro Secchia, Feltrinelli muore nel 72, Pietro Secchia muore nel 73 al ritorno da un viaggio in Cile, si è sempre sospettato che fosse stato avvelenato. Feltrinelli stirbt in 72, Secchia in 73, als er aus einer Reise nach Chile zurückkam, und es gab der Verdacht, dass er vergiftet wurde. Scusami, mi metti la parte? Sì. Scusa, a parte Secchia, però il Partito Comunista, sì. Io mi ricordo che al primo maggio andavo con mio padre, avrò avuto 15 anni, quindi 64-65, Feltrinelli aveva un banchetto al primo maggio dove metteva i suoi libri e c'era intorno il servizio d'ordine del PC, che in realtà non poteva menarlo perché non andava bene menare Feltrinelli, ma l'avrebbero ammazzato. Sì, sì. Cioè è stato il primo a dare una, come dire, una struttura antagonista, certo, al Partito Comunista, certo, cioè, in modo ufficiale, certo, ma certo, però aveva ganci all'interno del Partito Comunista. No, certo, però va detto anche altra cosa, sì, che altrimenti sì, sembra. No, no, di che il Partito Comunista ce l'aveva con Feltrinelli. Era una comunicazione di servizio, la gente ha fame. E quindi noi mettiamo la pasta, sì, e sì, la teniamo a caldo. Sì. No, buttate la pasta e veniamo. Per metà, la metà la buttiamo dopo noi. Quando sì, vogliamo. Prima o poi no, dobbiamo scusate, mangiare, perché mettiamo, io tra l'altro ho il problema che non l'ho portato con me, per la pieve, devo arrivare a casa a un quarto certa d'ora. Quindi se riusciamo ancora a avere un quarto d'ora è possibile. L'organizzazione ha detto che l'ha già buttata. No, non la cosa. Sì, sì. No, no, no. Sì, vabbè, ma finché a tavola al quarto d'ora passa, se ci finché a tavola, dai, allora continuiamo e vediamo, perché poi noi traduca delle cose, sì, traduca, no? E quindi nur ganz kurz, er sagte, er erinnert sich am 1. Mai, als wenn er an die Demos ging vom 1. Mai, hatte Feltrinelli hatte seinen Stand mit seinen Büchern und die Kommunisten hätten ihn gerne ziemlich übel zugerichtet, aber sie durften nicht, weil Feltrinelli kann man nicht bedienen. Allora rinunciamo, poi dopo magari vedete con lui il passaggio. Io volevo toccare tre o quattro punti tra il 1971 poi il 1972, quando Gian Giacomo muore. Allora il primo è questo, per tutto, diciamo così, da metà del 1970 fino a quando lui muore, il rapporto con potere operaio si consolida. Also drei, vier Punkte zwischen 71 und 72, oder 70 und 72, bevor Feltrinelli stirbt, nel maggio giusto del 70. Sì, tra il 70 e la fine del maggio. Ab Mai 70 wird der Kontakt zwischen Feltrinelli und adesso scusa, potere operaio. Feltrinelli un potere operaio wird immer stärker. Nel mille, quindi questo per tutto, per tutto quel periodo. Poi in quel periodo Feltrinelli ha succede un fatto internazionale molto importante. Ad Amburgo viene ucciso Quintanilla. Quintanilla era il massacratore del CE. In Hamburg, quando succede nel 71? Primo aprile del 71. Am 1. April 71 wird Quintanilla in Hamburg umgebracht. A uccidere, perché non ha tradotto, sì, Quintanilla. L'aveva ucciso, aveva ucciso, sì. Il massacratore, perché era quello che aveva tagliato le mani al CE per far vedere al mondo che era lui. Un Quintanilla hatte c'è massacrato seine Hände abgeschnitten, um per Welt zu zeigen, dass er es wirklich war. Quintanilla era stato poi mandato per toglierlo, insomma, per farlo fuggire dalla Bolivia, era stato mandato come console in Germania. Quintanilla war dann Konsul in Deutschland, um weg von Bolivien. Das haben sie quasi so aus Bolivien gebracht. Lo uccide Monica Hertl. Letta la Gringa, che era una giovane donna di origini tedesche che però viveva in Bolivia ed era la compagna, non mi ricordo più se di Inti o di Coco Peredo. Er wird von Monika Hertel und uno dei compagni di guerra. La Gringa, genannt wird. Sie war Deutsche, aber wohnte in Bolivien und war die Freundin von Inti Peredo. Di Inti Peredo. Uno dei compagni di guerra. L'arma che uccide Quintanilla è la Col Cobra di Giacomo Rinelli. La Col Cobra è una pistola. È la Col, che il film western non va. Die Waffe di Quintanilla Umbrin di si Col Cobra con Pettinelli. La pistola, la Col Cobra, viene portata dall'Italia all'aeroporto di Francoforte e consegnata a Monika Hertel da un compagno di Potere Operaio. Die Waffe wird von einem Genosse von Potere Operaio von Italien nach Frankfurt am Flughafen an Monika Hertel gebracht und Monika Hertel übergeben. L'uccisione di Quintanilla non è stato un omicidio, ma un atto di giustizia. Es ist kein omicidio, Tötungsdelikt, sondern ein kein Mord, sondern ein Gerechtigkeitsakt gewesen. Scusa, tu ne hai parlato con Feltrinelli di questa cosa qui, oppure perché so che lui non ne ha parlato con quasi nessuno? No, il problema è che il problema è che Monika Hertel, questa è sempre stata una domanda aperta, se ha perso o ha lasciato volutamente nel senso che gliel'aveva chiesto Gian Giacomo di lasciare la pistola come la firma, cioè è certo che a uccidere Quintanilla sì, è stata quella pistola perché certo. Era la pistola di Gian Giacomo. Certo. Die Frage war, ob mit Feltrinelli darüber gesprochen hat, weil Feltrinelli hat fast mit niemand darüber gesprochen und er sagt, die Frage ist, ob Feltrinelli gesagt hat, sie solle die Pistole quasi als Unterschrift e comunque alcuni di noi sapevano che quella pistola serviva per un'operazione importante, non sapevamo quale, ma che sarebbe servita per un'operazione importante. Einige von ihnen wussten, dass diese Pistole für eine wichtige Aktion vorgesehen war, aber man wusste nicht welche, aber man wusste dass eine wichtige. Nel settembre del 1971 al congresso di Potere Operaio viene formalizzato il passaggio di un centinaio probabilmente comunque di un gruppo di compagni a una struttura illegale che si chiamava appunto lavoro illegale come sigla LI. Durante il congresso nel 71 settembre del 71 in settembre 71 während dem Kongress von Potere Operaio ungefähr 100 Leute zu einem cos'era lavoro illegale? Lavoro illegale. Era una struttura interna. Sì, però era una specie di un'altra organizzazione. No, era un'organizzazione nascosta, diciamo così, clandestina di Potere Operaio. Also werden 100 Leute vom Potere Operaio in diese Unterkommunorganisation lavoro illegale, also illegale Arbeit. il responsabile militare nazionale di questa di lavoro illegale era Valerio Molucci. Del Frankfurt, che era uno dei compagni che poi ha sequestrato Aldo Moro. Heiner von den Dieden, Aldo Moro sequestrato. Entführt haben. Oreste era il responsabile politico. Oreste war der politische Verantwortliche. E io ero responsabile per la parte nord-ovest, perché poi Egidio Monferdin era il responsabile per la parte nord-est. Und er war verantwortlich für den Nord, Nordwesten. Und chi era per Egidio Monferdin, che era Egidio Monferdin war für Nordwesten. In quel momento i miei rapporti con Gian Giacomo diventano settimanali. Und in dem Moment werden seine Kontakte zu Feltrinelli wöchentlich. Diventano settimanali. E quando lui muore, sulla sua agendina trovano questi contatti settimanali con questo misterioso Cocco Bill. Und als er starb, fanden sie auf seiner Agenda diese wöchentliche Treffen, degli incontri o contatti. Sì, sì, incontri settimanali. Treffen mit einem misteriosen Cocco Bill. Sì, ce n'era uno previsto per la settimana successiva a Lugano, previsto per la settimana successiva. Riesci a tradurre tu? Sì, sì, sì. Mi metto lì, però che così sono più vicino a cerco. Per la settimana, successiva in cui Gian Giacomo è morto. Also per l'agenda stanno schon in contatto di Woche nach dem Tod von Gian Giacomo Feltrinelli. Più volte i magistrati mi hanno chiesto se io ero Cocco Bill. Di Richter, se era verhaftet. Fragte mehrmals di Richter, ob er Cocco Bill. Io ovviamente l'ho sempre legato ai magistrati. Er sagte immer nein, das bin ich nicht. Sì, vor den Richter. Però era un po' l'anagramma del mio nome e cognome. Adrelis Coccobino, c'è Cocobellosi Coccobino. Coccobino è un personaggio dei fumetti in Italia. Questa è una comic figure, Coccobino, il cowboy. Er war vor Gericht. Aha! Sorry für dich. Könntest du noch was zusammenfassen? Ich kann es versuchen. Also, als Feltrinelli starb, hat man in seiner Agenda wöchentliche Einträge gesehen mit einer Person, die Cocco Bill heißt. Und so, es war auch ein Treffen eingetragen, sogar schon nach seinem Tod. Und als er verhört wurde oder vor Gericht, wurde er gefragt, ob er das sei. Er hat das natürlich immer negiert. Aber es ist eine Abkürzung aus seinem Vor- und Nachnamen und es ist auch eine Comic-Figur. Das ist offensichtlich. Poi una cosa, perché appunto dico le cose più che ritengo più, perché adesso poi volete andare a mangiare, quindi. Sì. Allora, quando prima. Si chiama Suisse, ha detto che Pincus era convinto che Feltrinelli fosse stato ucciso. Suisse hat vorhin auf diese Reaktion von Pinkus hingewiesen, also Pinkus dachte, wie viele andere auch, dass es Petrinelli umgebracht wurde. Noi abbiamo sempre ritenuto, sulla base degli elementi che avevamo in mano, che invece sia morto purtroppo per un incidente, intanto che metteva questi ordigni su un traliccio dell'alta tensione. Also, sì, quando dici noi vuol dire potere operaio? Noi, tant'è vero che il giornale Potere Operaio è uscito col titolo Un rivoluzionario è caduto. Also, Potere Operaio in Gegen hat immer gedacht, das ist ein Unfall da. Also, se diese Hochspannungsmasten sprengen wollte, das wegen einem Unfall gekommen ist. Und Potere Operaio ist auch mit einer, also. Er hatte auch eine Zeitung und die Zeitung titelte ein Genosse ist. Com'è il titolo, scusa, l'articolo su un rivoluzionario è caduto. Un rivoluzionario ist umgekommen. Quella notte lui voleva fare due attentati, cioè nel senso lui in un luogo e altri in un altro luogo. Su due tralicci fuori Milano per vedere se si riusciva a provocare un blackout nella città per eventuali azioni di guerriglia con appunto la caduta di due tralicci su due... Ma cioè era una specie di esperimento? Sì. Era la prima volta che facevano... Per provare se funzionava. Sì, esatto. Era il primo attentato a tralicci che faceva. Also er wollte versuchen, zwei Strommasten umzukippen mit Explosiv, um einen Blackout in Mailand zu machen. Und das war so eine Hauptprobe, um zu sehen, ob das funktioniert im Falle eines bewaffneten Einsatzes in Mailand. So, das habe ich so verstanden. Con lui quella notte sul traliccio attorno al traliccio c'erano due compagni di cui uno tra l'altro era rimasto ferito a una gamba e noi sappiamo nel senso noi le Brigate Rosse e altri abbiamo saputo quello che era successo da questi due compagni che poi erano la loro prima azione ed erano rimasti così sconvolti che poi sono spariti. Scusa, traduco se non mi perdo. Es waren zwei Personen, zwei Genossen mit Feltrinelli diese Nacht zusammen und einer wurde auch verwundet und sie, also das heißt, sie, Potere Operaio und die Brigate Rosse erfuhren von diesen zwei Genossen, was passiert war. Und die waren zwei Junge, die bei der ersten, eigentlich war ihre erste Aktion und die verschwanden dann nachher, weil sie so schockiert waren. Però per anni c'è stata una leggenda metropolitana in base alla quale i due compagni che c'erano con lui quella notte, eravamo io e Enzo Fontana. Also es gab jahrelang die Legende, dass die zwei Genossen eigentlich, also dass er einer war und noch Enzo Fontana. Questa leggenda ha fatto sì che quando sono stato arrestato, la prima cosa che mi hanno fatto e farmi spogliare per verificare se avevo delle cicatrici sulla gamba. Warum als er verhaftet wurde, kontrollierte die Polizei, ob er eine Wunde hatte von diesem Attentat. Ecco, un'ultima cosa volevo dire invece su Salecina, se è possibile, ed è questo. Osvaldo Gian Giacomo mi aveva detto che intendeva prendere un posto in Svizzera che avesse anche, potesse avere anche la funzione di ospitare, fosse un rifugio temporaneo, diciamo così, per persone che avevano bisogno, per compagni che avevano bisogno di uscire dall'Italia. Io ho sempre immaginato che questo posto fosse in Canton Ticino, perché lui era molto, come dire, presente in Canton Ticino. Io non so se questo posto sia Saricina, però mi piacerebbe molto che lo fosse, perché io da questo posto, da quando sono venuto qui la prima volta, mi sono sempre subito sentito a casa. Also war nur kurz noch etwas zu Saricina. Osvaldo, also Feltrinelli, hatte immer ihm gesagt, dass er einen Ort in der Schweiz kaufen wollte, wo sich flüchtende Widerstandskämpfer, also dass sie in die Schweiz kommen konnten. Und eigentlich hat er oft gedacht, das muss im Tessin sein, aber er meint, vielleicht war es auch Saricina und er würde sich sehr freuen, wenn Saricina eigentlich der Ort, der immer erwähnte, wäre. Also, weil er Saricina, seitdem er Saricina kennt, auch das Haus sehr schätzt. Un'ultimissima cosa ancora, mi piacerebbe che il prossimo anno, io non mi ricordo più in questo momento perché la vecchiaia comincia, c'è il 14 o il 15 o il 16 marzo, è il 14 marzo, appunto, probabilmente il 14 marzo, o il sabato, se il 14 marzo è un altro giorno, in 3, in 30 o in 300 ci troviamo con una rosa rossa come all'epoca, con come dire, con i bracciali rossi che abbiamo deposto sulla sua bara a ricordare Gian Giacomo, e una ferita ancora aperta, nel senso che lo Stato non ha ancora pagato le sue colpe. Al cimitero monumentale ritrovarvi a Milano. Nächstes Jahr sind se sentito la resta, diteglielo anche a lui, però glielo dico io. Seit dem Tod von Feltrinelli und per hofft, dass er sich dann mit anderen Genossen mit einer roten Rose im Friedhof in lo, lo è. Va bene, finiva cosa con il capello. Grazie di più.